Comunque voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Cruciani, io ti devo confessare che sono come te, forse anche peggio, nel senso che io mi lavo sì e no una volta al mese, mi faccio la doccia, ovvio le parti intime me le lavo giornalmente, ma la doccia vera e propria me la faccio una volta al mese e mai mai nessuno mi è venuto a dire che puzzo. Ho una relazione stabile e neanche la mia compagna lo sa. A Parenzo, auguri e figli Rom. Vinciullo ha detto che Cruciani era il bello della compagnia. Ammazza, oh! E chi erano gli altri? Frankenstein e il conte Dracula? Ragazzi, facciamo gli auguri a Parenzo che è nato il bambino. Facciamo gli auguri, facciamo gli auguri, eh. Secondo me l'hai fatto apposta a farlo nascere il primo marzo a mezzanotte e mezza, perché col parto cesareo si può fare qualsiasi cosa. Perché ragazzi, però Davide, scusami, perdona, mi sono alle 18:35. Siccome non mi voglio incazzare e voglio essere felice, tranquillo per la nascita di questo bambino, che è una cosa meravigliosa, eccetera, eccetera. Ecco, o ti metti in un posto dove si può sentire bene la radio, dove si può fare la radio, dove ci possiamo divertire, dove possiamo accendere la gente, dove possiamo fare quello che dobbiamo fare, oppure ti mando serenamente a fare in culo. Facciamo così, è molto semplice la cosa. Perché o ti metti in un posto dove si prende il telefono, oppure chiudiamo tutto, perché altrimenti non si può andare avanti, no? Allora ricominciamo, come se non avessimo detto nulla. Facciamo gli auguri a Parenzo che è nato questo bambino? Allora, secondo me lo hai fatto apposta a farlo nascere il primo di marzo, perché il 29 non era bello non avere il compleanno per 4 anni. No, sarebbe stato magnifico anche quello, effettivamente, perché sarebbe stato un compleanno particolare. Però anche perché l'altro è nato il 29 di settembre, quindi sarebbe stata una coincidenza. Che c'entra il 29 settembre col 29 febbraio, scusa? Mezzanotte e 20 del primo marzo. Fatto apposta, perché la ferita là la fanno quando vogliono, là, no? No, fatto apposta. No, mezzanotte e 20. Vabbè, no. Dai, su, l'hai fatta apposta il primo marzo. Ti assicuro che è capitato così. Posso dirti che non si chiamerà né Mauro né Donato. No, che qualcuno faceva il tifo per Donato, tra gli ascoltatori. Qualcuno diceva: speriamo che lo chiami Donato. Beh, sarebbe meraviglioso. Donato, no, Parenzo. Donato Parenzo. Giorgio, come Squinti, neanche Giorgio. Sai che Telese ieri è rimasto impressionato. Mi ha telefonato dalla violenza di Donato di Varese nei suoi confronti. Gli era dette di tutti i colori. Di tutti. Ma tu non hai idea di che cosa gli ha detto? Berlinguer, porco comunista. No. Beh, Mediaset, Mediaset deve stracciare il contratto con te. C'è, cioè, una cosa spettacolare. Spettacolare. Era basito. Mi ha chiamato stamattina e mi hai fatto una trappola, figlio di puttana. Fatto bene, scusa, aggredito. Mi hai fatto una trappola. Ma chi è questo pazzo? Ma chi non lo conosci? E non è abituato. Allora, io non capisco perché, tra l'altro, sei ancora in ospedale. Io dopo per un forse, no, ma dopo un giorno, dopo un, io mi ero già rotti i coglioni. Cioè, io dopo un giorno, ma quando è nata, io dopo un giorno, ma già volevo scappare a gambe levate. Dime, che cazzo stai a fare lì? A guardare questo sgorbio maledetto, che i bambini sono così quando nascono, no? Cioè, anch'io, anche mia figlia, cioè, a guardare sto bambino che nasce. Dopo un giorno, basta, uno va a casa, lavora, lascia fare agli altri, ai camerieri, cameriere, badanti, super badanti, filippini, parenti, e uno va a lavorare. Poi vai là, un'ora al giorno, buongiorno, buonasera, come sta? Che bello, buon abbraccio. Ma poi basta, una rottura di coglioni pazzesca. Invece di Lucia, certo che sei proprio uno stronzo. Sì, vabbè, d'accordo, io sono particolare. Però tutto il giorno in ospedale. mattino, no, tutto il giorno sono stato anch'io, ho recuperato, sono arrivati i miei genitori, sono arrivati mamma amici, mia, fiori. La processione di persone. Siamo, poi quanto è bello sto bambino, quanto è bello tutti i calabresi. Tu che cazzo fai là? Ma vai a lavorare, vai in ufficio, vai io a casa, seguo le visite, seguo tutto, seguo le dinamiche, ma sono andato a casa, ho ripreso mia figlia, ho riparato da qui, mamma, e sono venuti i nonni, mia, ragazzi, sono venuti, comunque bisogna dire una cosa, bisogna dire una cosa, no, ma guarda che qui Natale è arrabbiata perché sta ancora aspettando i tuoi fiori che sono arrivati. È arrivato Davide, un matto. Davide, devi stare in un posto dove si prende, davvero, te lo dico con garbo, alla terza, non me ne frega un cazzo, alla terza volta sbrocco. Allora, parliamo di utero in affitto, Boldrini, utero in affitto, Boldrini, sentite. È una pratica sicuramente controversa, laddove appunto c'è di mezzo un sfruttamento del corpo di una giovane, specialmente in questi paesi poveri, è un pagamento, per me questa è una pratica che io non riesco veramente ad accettare. Allora, io non riesco a capire una cosa, da un certo punto di vista la Boldrini è coerente, no? Cioè la Boldrini è coerente con la donna, lo sfruttamento della donna, quello che volete, ma... Non capisco per questo razzismo nei confronti delle donne povere. C'è un altro ragionamento che ho fatto, capito? Cioè, ci sono delle donne povere che non hanno altra possibilità, o comunque una delle possibilità che hanno per arricchirsi, per stare meglio nella vita, è quello di sfruttare il loro utero. Non capisco perché la Boldrini e altre persone come lei, non danno questa possibilità alle donne di guadagnare più soldi, di stare meglio nella vita. Semplicemente, non è semplicemente, perché chiaramente anche, può essere anche un trauma, cioè quello di restare gravide per 9 mesi, guadagno 30, 40, 50 mila euro e magari in certi paesi sto meglio per 2 generazioni. Non capisco per questo razzismo nei confronti delle donne. Non è che sono tutte fortunate come la signora Boldrini, che lavorava all'ONU, adesso è presidente della Camera, cioè ci sono anche delle donne le quali hanno bisogno di 30.000, 40, 50, 70, 80 mila euro. E non capisco perché non deve essere consentito a queste donne di fare un passo avanti nella vita. Questo è razzismo nei confronti di un certo tipo di donne, da parte di donne di sinistra e non solo di sinistra. Ah, c'è il tuo amico Sallusti, Senti Sallusti. All'ASL apriranno uno sportello per comprare pezzi di bambino, che ovviamente non avverrà questa cosa, però. Il fatto è che non tutti hanno 100.000 euro per comprarsi un bambino, e allora diventerà lo Stato, come è successo con l'aborto, a garantire questa uguaglianza, e quindi aprirà uno sportello nelle ASL dove uno va e comprerà, magari pagando il ticket o addirittura con la mutua, quei pezzi di bambino che gli mancano per fare un bambino. Chi comprerà l'utero, chi comprerà lo sperma, chi comprerà l'embrione. Allora, vi faccio sentire un po' di Verdini, caro Parenzo, un po' del signor Verdini. E dov'era? Signor Verdini era Porta a Porta. Era Porta a Porta e si è presentato come molto, molto renziano. Non capisco quelli che schifano Verdini, cioè quelli, per esempio, del Partito Democratico, che sono all'opposizione di Renzi e altri, che schifano Verdini quando hanno fatto governi insieme a Berlusconi. Cioè, mi risulta che hanno fatto governi fino a non poco, non molto tempo fa, insieme a Berlusconi. Adesso schifano Verdini, cioè, capito? Perché che è quello che è stato con Berlusconi per una vita. Lo schifano dicendo: noi non vogliamo fare nulla con Verdini, non entrerà mai in maggioranza. Ma come? Vi è servito per votare la fiducia? E adesso non lo volete, lo schifate. Siete stati a governo con Berlusconi, adesso vi fa schifo Verdini. Una cosa incredibile. È un voto che, come dire, ci compromette. Che dare un voto di fiducia in politica significa... significherebbe, perché lei sente le contestazioni, entrare in maggioranza, perché questo normalmente avviene nel tavolo delle trattative, cosa che non c'è stata. Il suo rapporto con Renzi è la fiorentinità. Come nasce questo suo rapporto così confidenziale con il Presidente del Consiglio? Nasce dalla dalla fiorentinità, dall'uso cittadino di parlare, cioè un nostro modo di parlare che talvolta scandalizza gli altri e, come dire, e non è tanto compreso. Noi siamo franchi, siamo diretti, siamo scherzosi, siamo un po' alla Monicelli. Allora, credo che abbia qualche critica da fare a Vendola. È una persona che lo conosce bene, che lo ha anche votato, credo. Alba, come stai? Bene, ma non è la parola giusta, critica. No, e che cosa? No, allora, innanzitutto auguri per il bambino, che comunque è un bambino che si merita molta felicità e... Vabbè, allora... E quindi del suo destino non siamo noi padroni. Mi trovo abbastanza d'accordo con la Boldrini, forse perché è molto facile, vedi, tu parli, straparli molto spesso, Giuseppe, perché io non parlo, sei una donna. Appunto, parlo. Quindi tu non hai la più pallida idea di che cosa vuol dire una gravidanza, di che cosa ma vuol uno dire... la sceglie, non è che non allora, la sceglie. Il discorso è questo, è inutile. Allora, io apprezzo Vendola sul piano politico, vabbè, capisco poi... che ci possa essere un desiderio. Tra l'altro mi dispiace molto che oggi Vittorio mi hanno detto, ha scritto una cosa orribile su questo, perché dal culo non esce tu, niente. Siccome tu sei contrario o favorevole all'utero in affitto? Sono favorevolissimo. Favorevole? Sì. Allora io mi dissocio immediatamente. Però al di là di questo... No, ma non ho Vittorio, capito. Allora è una pratica orribile o no? Io voglio anche molto bene, però mi dispiace, non mi trovo assolutamente d'accordo con quello che ha detto, soprattutto perché la paternità può essere perfetta da parte di due uomini che decidono di avere un figlio, magari adottandolo. Io sono molto meno favorevole all'utero in affitto. No. Però si può essere buonissimi genitori pur essendo omosessuali o lesbiche e pessimi genitori. Insomma, mi sembra che Vittorio... Va bene, però scusa, andiamo, lascia perdere Vittorio, però scusa. No, invece restiamo su Vendola, restiamo su Vendola. È troppo facile sbattere addosso a Vendola, adesso tutti sparano su Vendola. Allora, io sicuramente non... te l'ho già detto... A me la pratica dell'utero in affitto mi sembra una cosa abbastanza aberrante, l'ho già detto. Per cui ha fatto una cosa aberrante, Vendola? No. Ma come no? Ma se dici che è una cosa... Se dici... Ma se dici... Ma scusa, ma scusami, Alba, ma se dici... Ma se dici che è un gesto aberrante... In affitto, forse per gli uomini non è così chiara, perché voi non avete l'utero, voi non siete genitori, non no, io non madri, ce l'ho, e non quindi ce non l'ho. Capirete mai che cosa significa partorire e avere una gestazione di un figlio. Quello... Ha ragione. Ma quello che c'entra, scusa. Io ho visto l'altra sera una cosa bellissima... No, però scusa, restiamo una cosa, non è che puoi dire quello che ti pare a te, aspetta un attimo. No, io devo dire quello che ti pare a te, secondo te, Giuseppe, come al solito, perché tu vuoi farmi dire quel cacchio che ti pare... Per scusa, usare ma se hai detto, se hai detto che è un gesto aberrante... No, io ho detto che non è un gesto aberrante, io capisco la voglia di paternità e maternità. Vabbè, e questo lo sappiamo. Poi di persone che non possono procreare da soli, perché è chiaro che due uomini non lo possono fare. Detto questo, però, da donna, come giudichi la cosa di Vendola? Io voglio sapere il tuo giudizio, diciamo, su Vendola, come la giudichi? Purtroppo tutto ciò che è mercificato, se fosse da parte di un'amica per cui il bambino poi ha la possibilità di conoscere la madre e la madre ha la possibilità non di c'è possibilità figlio, in questo non c'è io possibilità. Io che ho partorito ti dico che da un figlio una donna non si può assolutamente staccare. E cioè, dunque, che tipo di atto ha commesso sto Vendola? Non ha commesso un reato. Lui ha il reato e un po' di egoismo, se vogliamo, il reato di Vendola. Cioè lui ha avuto un desiderio di paternità e l'ha soddisfatto col suo compagno, col quale ha tutto il diritto di avere dei figli. Se ci fosse una gliela puoi perdonare, gliela non c'è in Italia perché ed è vergognoso. Sì, però restiamo su Vendola. Perché vuoi parlare di altro? Stiamo parlando di Vendola. Come la giudichi questa cosa qua che ha fatto? Cioè, come la giudichi, come una cosa aberrante, come una cosa? Perché uno non può dire togliere un bambino dalla madre aberrante e dire però sì, Vendola, come semplicemente perché è un amico tuo. Dillo di tutti, no? Cioè... No, allora, ma io non ho detto. Allora, io sono sempre stata contraria all'utero in affitto, ve l'ho detto. Ma gliela perdoni a Vendola o no? Gliela perdoni a Vendola? Gliela perdoni perché dietro la pratica dell'utero in affitto c'è comunque una donna che mercifica. Vabbè. Aspetta, che, ma non mercifica con la prostituzione, che sono cavoli suoi, se lo decide scientemente e non è costretta. Beh, anche in questo caso, ma è molto difficile che una donna possa partorire un figlio. Ripeto, voi la maternità, mi dispiace, potete sapere tutto. Tu uomini, stai passando a un altro discorso. Vendola, come lo giudichi? Vendola, anche questo, Cruciani, che cosa vuol dire partorire un figlio per una donna? Non lo saprai mai, mi dispiace. Tu non puoi partorire. Fermo, traffico, al contrario del tuo amico che ha appena partorito. Esatto, anzi, gli facciamo gli auguri? Fagli gli auguri, sì. Grazie, caro. Fagli gli auguri, sì. Fagli gli auguri. Ecco. Fagli gli auguri. Aspetta, allora, aspetta, ferma lì. Alba Paria, ma chi ha ragione? Non ha ragione per niente, perché non hai il coraggio di dire quello che pensa di Vendola. Fermo. Cruciani, l'altra sera facevo l'amore col mio ragazzo mentre ascoltavo La Zanzara. Beh, quando hai mandato il traffico, mi si è abbassata tutta la libidine. Traffico. La Zanzara. Allora, con noi Alba Parietti, Parenzo dalla clinica dove è nato suo figlio. Che nome, che nome avrà sto figlio? Che nome avrà sto figlio? Come si chiama tuo figlio? Non lo so, che nome avrà? Che nome avrà? Struttura pubblica. Vabbè, struttura pubblica, d'accordo, è uguale. Sì, struttura pubblica, dove non si sente, dove non si sente in cazzo, naturalmente. Dimmi un po'. È un ospedale, non è. Ma ce ne sbattiamo i coglioni noi. Dimmi. Benissimo a fare i figli nelle strutture pubbliche, voglio dire, perché è molto meglio. Come si chiamerà? Come si chiamerà? In caso di necessità. Il nome verrà rivelato nei prossimi giorni. Verrà rivelato nei prossimi giorni. Un po' alla volta ce lo dici? Sì, e che devi fare? Peggio di te e del matrimonio con Christopher Lambert. No, lo diciamo Crociani, come da tradizione. Andare... No, è peggio di te, diciamo, delle rivelazioni. Tu sei geloso, sei invidioso. No, ma è peggio di te delle rivelazioni che dai, sapere, che stai scentellinando. Di come dire, di topo che scava sotto una talpa, che vuole entrare nelle viscere dei fatti. Ma alla fine ti sposi o no? Ti sposi o no? Ma non mi sono... No, non ti sposi. Ma questo che c'entra? No, è una curiosità. Adesso, dato che siamo qua, mi è venuto in mente all'improvviso e te l'ho chiesto. Se ne avessi voglia non lo direi comunque a te. Vabbè, ma lascia perdere, chi lo diresti non è interessante. Non ti sposi. Perché non ti sposi? Ma perché ti devo sposare? Vabbè, ma è così bello, sono no? Sei contrario al matrimonio. Sei contrario al matrimonio? Sì. Soprattutto perché... quando si ha la mia età e si hanno dei figli grandi. Brava, brava, questo è giusto. Questo sono, vedi che troviamo non una, ha senso. Troviamo una cosa. Allora, tu adotteresti un figlio insieme a Christopher Lambert? Ma che domanda. Allora adesso. No, io ma interessante. Avrei adottato un figlio se la legge me l'avesse consentito, sicuramente sì. Ah, da single. E secondo me lo dovrebbe poter fare anche un singolo individuo, per il semplice fatto che dei bambini, piuttosto che crescere in un orfanotrofio, sono sicura, crescerebbero molto bene, molto meglio. O con una persona single che se lo vuole prendere in affido, sono oppure d'accordo. Anche con una coppia di omosessuali che sono assolutamente in grado di dare tutto l'affetto necessario. Non sono favorevole all'utero in affitto, perché dietro l'utero in affitto che c'è? La sofferenza? C'è la sofferenza. Comunque una speculazione. La speculazione. Dunque, enorme. E soprattutto per popolazioni molto spesso che hanno dei gravi disagi. Dunque, di conseguenza, vendola ha fatto una porcheria. Può fare, oltre all'utero in affitto, i bambini possono essere procreati per espianto degli organi. In tenerissima età, cosa che succede nei paesi tipo l'India o cose di questo Vabbè, genere d'accordo. Da sempre. Adesso non ci fare la lezione sul ma è inutile, cioè ti faccio la lezione perché sei ignorante. No, me ne so molto più di te in materia. In materia, no, ma bisogna vedere che fini fanno questi sto vedendo il tuo amico Bush in televisione. Bush che c'è da Trump, no? Bush. Però sai, lapsus freudiano. Ah, al limite Trump, Bush ormai è finito. Scusa un attimo, no, adesso andiamo su Trump però. Su me hai detto delle cose tremende sull'utero in affitto. Di conseguenza, Vendola ha fatto una porcheria. Dovresti essere quello. Non ha fatto una porcheria, non ha fatto quello che la legge non gli. Allora, la legge italiana non ha fatto una porcheria. Vuoi salvare il tuo amichetto Vendola? Va bene. È facile, come hanno fatto Elton John e altri, eccetera, eccetera, andare all'estero e a questo punto nessuno glielo vuole. Dunque, fare. Ha sfruttato una donna. Ha sfruttato una donna. Ha sfruttato una donna. Ma senti Crociani, ma se tu vuoi parlare male di Vendola, perché non lo fai tu direttamente? Io sto parlando da donna che è contraria all'utero in affitto per motivi etici personali. Vabbè. E chi lo fa? E chi lo fa come lo consideri? E so che cosa prova chi una fa, donna, d'accordo, chi fa l'utero in affitto come lo consideri? Cioè chi pratica questo? È un povero disgraziato che ha bisogno evidentemente, nessuna donna può secondo me, a meno che non ci sia un rapporto di amicizia, di fratellanza, di parentela, avere molta voglia di tenere, di gestire un bambino per 9 mesi nell'utero. E dunque un povero disgraziato, dicevi? A un'altra persona, se non per disperazione. Detto questo, io ho la massima stima di Vendola. Beh, hai detto chi fa l'utero in affitto è un povero disgraziato. Ho capito, ragazzi, ma se le debolezze le abbiamo tutti, soprattutto per quanto riguarda le cose più che ci rendono più fragili, tipo la voglia di paternità, maternità. Facciamo che le leggi italiane cambino rispetto abbiamo fatto questa legge una scarpa. È uno che sfrutta, secondo il tuo. Secondo il tuo. Aspetta. Ma non andiamo su altre cose, Alba, non andiamo su addirittura vabbè, siamo discriminati noi etero. Va bene, ho capito. Siamo arrivati al paradosso che pur di prendere i voti Alba. Della maggioranza del lobby omosessuali e gay hanno fatto la legge per i gay e per gli omosessuali non l'hanno fatta per le donne come al solito. Cioè, comunque, è una vaccata. Va bene, una vaccata, anche per me è una vaccata, per cui siamo d'accordo su questo. Però voglio dire, riuscito a farmi dire qualcosa di cattivo, veramente. Beh, certo, che è un povero disgraziato, certo, uno che sfrutta una donna, ma guarda, che dal mio punto di vista. dal mio punto di vista, tra l'altro, non è affatto uno sfruttamento, cioè è assolutamente legittimo farlo per una donna. Senti, io ti chiedo una cosa, come lo consideri Trump, a proposito di Trump? Trump, evidentemente è la prova che non siamo solamente... Allora, Trump è quello che evidentemente l'America oggi si merita, perché non c'è un candidato... No, ma come lo consideri lui? Allucinante, ma il punto è che non c'è un candidato alternativo... che possa batterlo sostanzialmente. Vabbè, ma adesso non facciamo la cosa. Come lo consideri per quello che ha detto? Consideri per quello che ha detto? Un pazzo, un nazista, un folle, che ne so? Dice delle cose che sfiorano le filo fasciste, eccetera, eccetera, ma lo sappiamo tutti, ma lui non se ne rende neanche, secondo me, bene conto. E fisicamente come lo vedi? Fisicamente? Non conosce bene la storia, secondo me. Fisicamente, com'è? Fisicamente? Ti repelle fisicamente, ma signor Trump? Ma tu perché non dici tu che ti repelle fisicamente Trump? No, a me non mi repelle per niente. Al di là del fatto che mi possa repellere o non repellere Trump, io lo vorrei alla Casa Bianca. Come in Italia, quindi la nostra classe politica e quella americana hanno lo stesso tipo di problematica, non c'è nessuno in grado... L'analisi è ancora più agghiacciante, perché parliamo degli Stati Uniti, non hanno uno in grado di battere uno come Trump, che secondo me è una figura ridicola. Noi in confronto siamo, perché almeno una specie di clown, dici. È simpatico, eh? A chi assomiglia in Italia? Che ne so, a Berlusconi? Meglio Berlusconi. Meglio Berlusconi di Trump, eh? Sì, è più simpatico. Anche il riportino non ce l'ha Berlusconi, almeno. No, perlomeno c'ha il trapianto. Meno il trapianto. Non che lo finisca. Ciao. Parlo con Giuseppe Cruciani? Chiamo dalla segreteria degli inferi. Il diavolo vorrebbe avere un contatto con lei in prima persona. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, come si fa a non amare uno che si candida alle elezioni americane, alla presidenza degli Stati Uniti, cioè a non sognare che ci sia la Casa Bianca uno così? Questo è il punto fondamentale. Perché ci siamo un po' stufati di tutti questi presidenti uguali che non dicono una parola di troppo? Beh, Donald Trump sarebbe perfetto, ci farebbe godere almeno per 4 anni. Chi se ne frega la stanza dei bottoni, la valigetta in mano, i casini che può provocare, più di quelli che già ci sono, cosa potrebbe accadere di più? Ma vogliamo ricordare, caro Parenzo, alcune frasi memorabili pronunciate dal signor Trump, dal signor Donald Trump. È meraviglioso. Il Messico non ci manda i migliori, gente con un sacco di problemi, ci portano droga, crimine, sono stupratori, i messicani. La Merkel si deve vergognare perché vuole accogliere 1 milione di immigrati. Se Hillary Clinton non sa soddisfare suo marito, questa è bellissima, eh? Se Hillary Clinton non sa soddisfare suo marito, cosa le fa pensare che saprà soddisfare gli americani? Bisogna chiudere internet. Chiudere internet in alcuni posti. Chiudere internet. Chiusura totale e completa per i musulmani negli Stati Uniti, fin quando i responsabili della sicurezza non capiranno cosa sta succedendo. E poi tante altre ancora, tra cui l'ultima su Mussolini, l'ultima citazione mussoliniana. Meglio un giorno da leone che 100 da pecora. Che dite, rubrica Radio Padania? Andiamo con la rubrica Radio Padania? E vai, su, vai, il peggio o il meglio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Padania bella e libera. Non so perché se la prendono con l'Oscar a Morricone a Radio Padania. Sentiamo perché. Buongiorno signor Sammy. Uè, buongiorno. Io ho chiamato per l'Oscar. Eccolo lì. Ecco, di Ennio Morricone. Allora, non so se ho capito giusto, ha vinto solo per la colonna sonora, signor Sammy. Mi risulta, sì, sì, ecco, sì. Ecco, allora io direi, tutta questa enfasi per una colonna sonora è vergognoso, altro che elogiarsi, non voglio dire altro. A chi ti vuol fermare? Sali Padania. Vabbè, questo su Morricone che non si è capito una mazza in realtà, eh. Bendola che ha schiavizzato le donne. Lui ha schiavizzato una donna, due donne mi sembra, due donne, cioè 130.000 euro pagato con le nostre tasse. La libertà. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Padania bella e libera. Sono schifata, scandalizzata, ho anche persino vomitato col pensiero, innanzitutto contro Vendola e suo marito o sua moglie, contro quei due caproni e quei due intellettuali, perdonami, di merda, che si sono permessi di offendere il nostro capitano e di offendere noi dicendo che abbiamo la pancia e non abbiamo il cervello. Come una madre e un figlio. Varin contro Vendola. Non so se Nicky Vendola proprio maschio o non maschio. Diciamo, sai che non lo so, fa il maschio o non fa il maschio? Tutto per. Ma l'altro uomo fa la donna o la donna la fa Nicky Vendola? Però c'ha l'orecchino Nicky Vendola. Però l'orecchino ce l'ha anche Matteo Salvini, d'altronde. Quindi. Senza dubbi neri pensamenti. Allora, lo sai che mi fa incazzare? Prima stavo ripensando, durante la rubrica di Radio Padania, stavo ripensando all'intervento della Parietti. È una cosa veramente incredibile. Forse mi devo incazzare addirittura di più. Perché se uno sostiene che l'utero in affitto sia una porcheria, che sia la schiavizzazione delle donne, che sia la merce, eccetera, eccetera, allora deve considerare chi pratica l'utero in affitto come uno schiavista. E non è che c'è solamente la coppia della Brianza o i gay poveracci che vanno in Ucraina sconosciuti. Ci sono anche personaggi come Vendola. Dunque, se uno vuole essere coerente, deve dire Vendola è una specie di schiavista. Se no, se uno vuole appoggiare i suoi amichetti, è sempre la solita storia. Ha detto che è una cosa. Non ha detto che è uno schiavista. Ma mi pare che ho capito, ma se tu consideri. Non mi fare dire una parola contro Vendola, amica mia, ma se consideri questa roba qui una roba, una specie di tortura nei confronti di una donna, chi la pratica? Chi la promuove? E che cos'è secondo te? Non lo so. Sali Padania. Mamma mia, che ipocrisia, guarda che schifosa ipocrisia. È orribile questa cosa. Fabio da Milano, Fabio. Era ora, Peppino, mannaggia, ho sentito tutto. Vai, dimmi, Fabio, dimmi. Ma c'era Parietti? No, è andata via. Non è andata. C'è più. Non è andata via, è andata da Christopher. È andata da Christopher. Quante volte di capre che gli avrei dato? Perché? Che è successo? Stronza? Perché? Che ha fatto? È una stronza. Come si fa? Dov'è la coerenza? A me lo dici. Ha sempre detto che lei pensa quello che dice, pensa quello che dice, tutte queste cose qui. Crede in quello poi, che e dice. E poi quando tu gli fai una bella domanda, che ho seguito, gli hai fatto una bella domanda dicendo ma uno che sfrutta l'utero, eccetera, è un disgraziato, eccetera. Invece Vendola, chi è Vendola? è un amico, allora, ma io lo stimo, eccetera. Ma chi se ne frega? Cioè, se ci fosse stato Sgarbi, chissà cosa gliene avrebbe dette. Ma no, ma guarda che... Non è possibile, dai. La pratica che ha fatto vendere è una pratica aberrante. Ma questo, chi pensa che... Ho capito, ma se uno... Scusate, allora d'accordo. Allora devi considerare... Devi considerare. Sì. Bendola un pericoloso criminale, se pensi che questa pratica... come mi hai anticipato tu, mi hai detto che lo sfruttatore. Ma guarda che siete veramente incredibili. Cioè, se pensate che questa roba qui sia non solo non è come rubare una mela, no? Cioè, non è significa entrare nel corpo di una donna, violare il corpo di una donna, compromettere il corpo di una donna, renderla, metterla incinta, sfruttarla per avere un bambino per il proprio egoismo. Se voi pensate questo, dovete pensare che quello là è un pericoloso criminale nazista. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Ma dov'è la coerenza? Dove cazzo è la coerenza? Non è un criminale, ma dai, su. Vabbè, allora salvate Vendola, dai, salvate Vendola. Io sono a favore dell'utero in affitto. Luca, per me non è un criminale, non è affatto un criminale. Ma voi che considerate questa cosa qui una cosa aberrante, dovete essere coerenti e dovrete promuovere, dovete muovere l'Interpol per far arrestare Vendola. Dovreste mobilitare tutte le risorse per far arrestare. Mica ha violato delle leggi. No, sì, le leggi italiane sì, le ha violate. Secondo alcuni, le leggi italiane le ha violate. Francesco da Matera, dai. Infatti, non l'ha fatto qua, l'ha fatto in Canada. Francesco, Matera. Pronto? Dimmi. Io sono a favore dell'utero in affitto per un semplice motivo, perché ho perso due bambini con la mia compagna e se ci fosse la possibilità di affittare un utero lo farei in un istante, visto che la legge italiana non consente l'adozione alle coppie chi non può avere dei figli. Poi volevo dire un'altra cosa, Cruciani, mi ascolti? Sì, dimmi. L'altra sera vi siete messi a Pecorella, tu e Parenzo, davanti a Formiconi, quel ladro impunito di merda. Ma che c'entra? Su che cosa ci siamo messi a Pecorella? Chi usa l'utero in affitto, perché lui non ha spiegato dove sono andati a finire i 96 milioni di euro della Fondazione Maugeri? Ma cosa c'entrano queste due cose? Quel pezzo di merda si può permettere di chiamare criminali a noi che vorremmo avere un figlio e non possiamo adottarlo e non possiamo prendere un utero in affitto perché non abbiamo le capacità economiche di Ventola. Ma stiamo scherzando. Intanto non avete detto niente. Francesco, non è che quando invitiamo una persona la dobbiamo. Ci sono dei processi in corso, adesso vedremo se sarà condannato in via definitiva. Così può essere classificato. Quando sarà condannato? Quando sarà condannato sarà troppo tardi. Sarà considerato un ladro. È già un ladro. I politici sono impuniti. Questi hanno il coltello dalla parte del manico perché sono impuniti. I politici sono tutti impuniti. Intanto, se noi non paghiamo un bollo di una macchina, ci mettono le ganasce. Questo qua lo dovevano castrare. A quel coglione di Formigone, castrare. Certo, e questo volevo che lo sentite quel donato di come cazzo sta di Varese là, magari perché no, è quell'altro zombie di che ha parlato prima, di quello che stava con sono troppo agitato, non mi viene in mente. Perché sei agitato, Francesco? Sono agitato perché sento certe cose, a parte il fatto che fate aspettare delle ore intere, l'altra sera io faccio il camionista, mi hai fatto fermare due sere in piazzola ad aspettare due ore prima di parlare e poi mi chiude il telefono. Cioè, organizzatevi un po' meglio e poi potenziate un po' la radio della Confindustria e potenziate un po' le antenne, che è più potente è Radio Maria. Hai ragione, Francesco, quanto hai ragione. Ma dove vai in giro dappertutto, poi volevo dire dappertutto, vado. Poi volevo dirti è sempre pieno di froci nelle piazzole. Sì, se tu vai alla non solo nelle piazzole, se tu fai l'uscita di Rimini Nord, là ci sono froci che anche con la 50 euro ti fanno vedere la 50 euro. Che se tu te li ingroppetti ti danno 50 euro, non solo lì. Avviso a tutti i naviganti, uscita a Rimini Nord, se avete intenzione, divento un po' capanna Parenzo, avete intenzione di usufruire di qualche servizio da parte di gay nella zona di Rimini Nord, potete uscire tranquillamente di lì. E dov'è che andate? Dov'è che si va, Francesco? Lì, subito all'uscita di Rimini Nord c'è un ristorante e loro stanno nel parcheggio del ristorante. Loro, la lobby dei froci a Rimini Nord, stupendo. È così, siamo al il top. Ristorante a Rimini, no? Che ristorante è? Che fanno? Si raduna? No, non è che stanno lì siraturano, stanno a girare a ronzare come le mosche, come un camionista parcheggia, stanno lì con la 50 euro, qualcuno che ti fa vedere la 50 adesso euro. Adesso dunque siamo passati non più alle piazzole, ma addirittura all'uscita c'è un ristorante Rimini Nord, avviso ai naviganti, Rimini Nord. Che ristorante è, Francesco? Anche a Cesina, dove c'è l'Eurogel lì a Cesina, è pieno di froci anche lì. In tutti come si chiama? Euro? Che cos'è questa? Un'altra novità, Eurogel mi sembra. Ma poi cos'è Eurogel? Supermercato? Che roba è? No, è un posto dove fanno sì, Orogel, Orogel. Ah, esatto, nel piazzale, tu dici, nel piazzale. Strade lì è pieno dappertutto, ormai non è che c'è Orogel. Dunque, infatti stanno lì apposta per i camionisti, diciamo, sì, no? Comunque ti dirò, a me non mi danno fastidio i froci, finché appettano tra di loro, finché stanno al loro posto, si avvicinano anche al mio camion delle volte, però non danno fastidio. No, non ti prendono mica per la gola. Siamo passati molto facilmente dall'utero in affitto di Francesco, che ha perso due figli e vorrebbe fare l'utero in affitto ma non ha i quattrini di Vendola, ai gay piazzati a Cesena e a Rimini Nord. Fermi tutti. Sì, ma che palle però, e prima il traffico e poi la borsa e poi la pubblicità e poi il telegiornale, oh, ma noi volevamo sentire la Zanzara, mica ste cazzate. Banca Mediolanum, costruite intorno a te, vi presenta La Zanzara. Vi sto ascoltando da Canton, Cina. Cruciani in Cina, dopo una puntata della Zanzara, ti arrestavano subito. Viva la libertà, viva la Zanzara. E viva l'Italia! Caro Parenzo, non so se tu sei stato occupato questa mattina da pratiche, che ne so, aiutare tua moglie in ospedale, sbrigare delle faccende, non so se hai avuto modo di leggere i giornali di prima mattina, perché poi la sera non valgono più una mazza i giornali, magari nemmeno la mattina, per carità. Non so se hai letto questa notizia che mi ha anche un po' sconvolto, perché ci sono magistrati che parlano tranquillamente di alcune cose come se nulla fosse. C'è un magistrato di Venezia, credo che fosse sul Fatto Quotidiano, che ha detto delle cose incredibili. Cioè, delle cose per cui uno dovrebbe dire: ma ragazzi, ma è tutto finito, non c'è più alcuna possibilità, non c'è nessuna possibilità. Cioè, pare che siano state approvate delle leggi, dei regolamenti, non so bene cosa, nell'ultimo anno in Italia, per cui la polizia può anche arrestare in flagranza ladri, rapinatori, spacciatori, come il caso del nomade che ha causato tutto quel casino con Hermes Mattielli, quello che tentò la rapina con Mattielli. Ma dobbiamo poi subito rimetterli fuori. Li dobbiamo rimettere fuori subito. Le leggi purtroppo. Tu fai un fermo di polizia, no? Non è così. I ladri e i rapinatori devono essere rilasciati, perché una nuova legge prevede che prima della condanna raramente uno può finire in carcere in caso di pena inferiore ai 3 anni. Questa è la cosa. Certo. Molto raramente uno, ma anche se ti beccano in flagranza di reato, come è il caso del tizio di Mattielli, se ti beccano in flagranza, cioè, evidentemente dipende dal tipo di reato. Ma ragazzi, ma non andare nel tecnico, è già solo questo, è solo questa la follia. Se no i reati sarebbero equiparati e tutti uguali. Tant'è che in Trentino si arriva a condanne definitive in maniera molto veloce, in 2-3 anni, e se un ladro ha dei precedenti, la maggior parte delle volte finisce in carcere. In Trentino, Veneto, se uno ha dei precedenti. Sì, no, d'accordo. Quindi si faceva il caso del Trentino. In Veneto, invece, dove ci sono un sacco di rapine, un sacco di reati, poveri veneti, devo dire la verità, arriva molto velocemente la prescrizione. Sono tutti incensurati praticamente. Dunque, anche se ti beccano, anche se hai fatto 10 rapine, siccome probabilmente le cose vanno in prescrizione, tu fai una rapina, ti beccano in flagranza, ma non vai in galera. Cioè, una cosa pazzesca, dai, ragazzi. Uno schifo pazzesco, dai. Don Lidio Fanzaga su Vendola. Spettacolare, scatenato Fanzaga, eh. I matrimoni omosessuali sono un attentato alla creazione di Dio, al progetto divino. L'utero in affitto è qualcosa di ancora più grave, perché I bambini, invece di essere un dono di Dio, diventano una fabbrica come le automobili. Infatti ormai i giornali parlano chiaramente delle fabbriche dei bambini. Io personalmente trovo straordinarie le fabbriche dei bambini. La penso un po' come il professor Antinori da questo punto di vista. Le fabbriche dei bambini, per chi se lo può permettere, per chi può, per chi non li può avere, sono delle cose meravigliose. Sono una, come dire, il dono che la tecnologia fa a chi non si può permettere dei bambini. Sono delle cose fantastiche. Sì, tra l'altro, il bambino non è una verdura. Tra l'altro, danno lavoro. Ma danno lavoro. Ma sì, ma quando un bambino, dire, quando un bambino nasce, chi se ne frega di come è nato? Chi se ne frega? Anche lo spaccio della droga dà lavoro. Ah, stai paragonando lo spaccio della droga al mettere al mondo un bambino? No, ma dai, su. No, mettere al mondo, senti, no, Don Fanzaga. Senti ancora il don. Senti ancora il don. Saranno figli, a mio parere, che avranno dei problemi. Comunque, il fatto che si stabilisca il prezzo, che si tiri sul prezzo, insomma, che sia il mercato dell'umano, cioè si applica ai bambini, ai feti, ai embrioni, quello che si faceva nel corso della storia umana per gli schiavi, cioè venivano venduti e comprati. Questo sarebbe cristianesimo? Questo è satanismo, non cristianesimo. Questo è il progetto di Satana, non il progetto di Dio. Aridaglie con sto Satana, aridaglie con sto Satana. Poi dice Marx aveva previsto tutto. Che cazzo c'entra Marx adesso in questa storia? Caro Marx aveva previsto che questo sarebbe avvenuto, ma non sapeva che chi l'avrebbe portato avanti erano i suoi nipotini. È il tempo della corruzione generale, della venalità universale. Allora, dove andiamo? Andiamo a Vercelli, Angelo, vai, 800-24-0024, WhatsApp, come sapete, 393-71-71-701, quanto odio dire numeri di telefono, mi fa un po' di vecchia radio di merda. Angelo, vai. Sì, buonasera, dottor Crociani. Innanzitutto complimenti per la scelta musicale, perché è l'unica radio dove riesco a ascoltare della musica rock in tutta Italia. Musica, è una specie di accenno di musica, comunque. Esatto. E niente, io volevo dire che secondo me è solo un discorso sessista del cazzo, mi passi il termine, perché se io... Se facciamo del buonismo sull'utero in affitto, sulla maternità surrogata, allora vietiamo anche agli uomini di donare il seme alla banca del seme per fare la fecondazione artificiale. Ma certo, perché ma questo è diverso, ma che c'entra? Ragazzi, ma... quando si accetta una cosa, si deve accettare anche l'altra, è no, uguale, è la stessa cosa. Perché una donna non può essere libera di aiutare, certo, non schiavizzata? È il razzismo nei confronti di una donna che vuole migliorare la sua situazione economica. Esatto, è razzismo, esatto. È razzismo. Non volete che quella donna stia meglio? Siete razzisti? Il razzismo è un'altra concentrazione. No, siete razzisti. Ma quale sfruttamento? A parte che uno lo decide, no, in autonomia. Non è sfruttamento, lo decide in autonomia. Lo schiavismo non c'entra una mazza. Una donna decide se restare incinta per 9 mesi e dare il suo bambino. Lo decide anche se nella. Anche certamente lo può decidere sulla base di un problema economico che ha. Non c'è dubbio, però se lei pensa, se quella donna pensa che uno dei motivi, uno dei metodi, ma non si può dare un prezzo a tutto, questo è il tema. Ci sono alcune cose che non hanno prezzo. Ma è anche una questione di volontà, è anche una questione di volontà. Se una donna decide di aiutare, come un uomo può donare il seme per aiutare altre persone? No, aiutare non esiste, dai, adesso non diciamo aiutare, questa cosa qua, che la donna aiutare. Vuole aiutare, dai, ci saranno dei casi sicuramente. Quelli sono casi positivi, quelli di donne che si offrono loro di aiutare, va bene. Ma il resto sono fabbriche di bambini, ha perfettamente ragione. Ma lo dico pure io. Lo dico pure io. Ecco, ma non ha tutto, non può avere un prezzo, però. Ma che frase è? Non tutto può avere un prezzo. Ma che è una frase? Sono delle cose che non vanno prezzate, secondo me, ma non sono solo in questa cosa. Assolutamente no. Angelo, grazie. Delio da Roma. Per fortuna in Italia non c'è. Delio da Roma, dai. Buonasera, io ho chiamato dopo aver sentito il cinismo della Parietti e mi è sembrato eccessivo quando ha fatto gli auguri al bambino. Ora vi racconto un fatto. Circa 3 anni fa avevo dei cuccioletti, 4 cuccioli di Stringer, un cane da caccia. Ne vendo uno, aveva 50 giorni. Sto tizio va a casa, il fratello della forestale, sì. E gli dice che 50 giorni. Questo mi chiama incavolatissimo quella... Mi voleva denunciare perché mi ha detto che c'è un regolamento del Comune di Roma e poi c'è una legge nazionale che dice che non può vendere cuccioli se non ha almeno 60 giorni. Sì, questa se cosa dei cuccioli separati dalla madre dopo 60 giorni, quante volte l'ho sentita in queste... Ma cosa c'entra? Ma non c'entra niente. Sì, con me c'entra niente, per i bambini no. Senti, ce ne fottiamo. Delio, io non sto dicendo che ce ne fottiamo. Lì c'è un contratto. Lì c'è un contratto. Lì c'è un contratto che è fatto consapevolmente. Certo, anche con me Vendola ha fatto un contratto. Il figlio di Vendola vale meno di un cane, del mio cagnolino. Ma che stanno scherzando? Ma siete fuori pure voi. Scusate, ma se uno decide, Delio, se uno decide. No, non mi sono fumato niente perché queste cose le sostengo. Ma che cazzo dici che il cane è meno importante del mio cagnolino? È un paragone ridicolo quello che stai facendo, ridicolo. È un ma paragone. Ma l'animale uno, l'animale l'altro, ma che dici? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma non è che un bambino resta traumatizzato? Ma chi ve l'ha detto pure sta cosa che il bambino ma resta traumatizzato? Ma chi lo dice? Ma chi lo dice? Con la mamma allatta. Ragazzi, è pieno di bambini che sono cresciuti senza allattarsi al seno della madre e sono cresciuti benissimo, tranquillamente. Per cui non dite cazzate, dai. Sono più forti gli animalisti che proteggono i cani, i cuccioletti, qua e là, che adesso va bene. Ti piace venire in un paese così contento? Tu lo dici. Quale paese se noi non ce l'abbiamo questa cosa, purtroppo? Dico, facciamo fare i soldi all'Ucraina. Noi siamo contro qualsiasi progresso. E quello non lo vogliamo. E i ponti non li vogliamo. E quello non lo vogliamo. E l'utero in affitto no. Facciamo fare i soldi alla California. Facciamo fare i soldi alla California, all'Ucraina, ad altri paesi così, che fanno i soldi con tutte le cose più avanzate, no? Perché noi non le possiamo fare, non si può vendere l'utero. Ma chi te l'ha detto che non si può vendere? Una donna decide consapevolmente di vendere l'utero, punto e basta. Ma qual è il problema? Questa è un'operazione che possono fare solo i ricchi, su questo siamo d'accordo. Ma anche a me, allora, ma ci sono tante cose che possono fare solo i ricchi, ma che ragionamento è? La portano lì a Bari, dove cazzo stanno, se la portano lì e la tengono lì per un anno, finché il bambino non è grande, poi piano piano... Ma non funziona così, perché altrimenti poi il bambino si attacca alla mamma, ma di che parlate? Non può funzionare così. Sì, pure il cuccioletto del cane, allora si attacca alla mamma. Enrica da Padova, vai Enrica. Sì, pronto? Dimmi Enrica, dimmi. Ma io non mi ricordo chi è che è a favore dell'utero in affitto. Io eccomi qui. Ah, lei, eccomi qui. È lei. No, ma io stavo soltanto così pensando. Visto che diceva che collegava l'utero in affitto alla possibilità di arricchirsi, una scelta di vita consapevole. Di arricchirsi, in più, insomma, di fare qualche soldo. Arricchirsi. Sì, arricchirsi. Sì, arricchirsi. Ha detto di arricchirsi. Sì, certo, assolutamente. D'accordo. Perché lei non potrebbe pensare di arricchirsi dando il sedere in affitto? Perché non lo voglio fare. No, e non ho bisogno, ecco. È perché non ho bisogno. Non ho bisogno, non ho bisogno che pagano molto. Quando pagano un po' meno bene a Radio 24, magari si può pensare. Guardi, se mi offrissero 200.000 euro per essere inchiappettato, probabilmente lo faccio. Sono sicura che potrebbe raccogliermi. Assolutamente, se qualcuno mi dà 200.000 euro per essere inchiappettato, mi faccio inchiappettare domani mattina. Sono sicura che potrebbe raccogliermi. Enrica, tutto se lì. Allora, grazie. Enrica, è molto semplice la cosa. Se qualcuno mi dà 200.000 euro per sodomizzarmi, domani mattina mi faccio inchiappettare. Ma domani mattina, glielo dico subito, posso firmare domani mattina. È una scelta autonoma, cioè come Parenzo tu ti faresti inchiappettare per 200.000 euro? Ma il tuo prezzo è bassissimo. Ma io vabbè, 200.000 perché ho detto 200, 300, 400, quello che è. Vendi per poco, io non ho quel... Cioè tu per 200.000 euro non te lo fai buttare in culo? Ma ci sono cose che per me non hanno prezzo, farei magari altre cose ma non quelle. Ci sono sì, cose ma un'inchiappettatina, ma adesso l'ho detto così, mi è venuto, no, al, mi è venuto al volo, però se avessi bisogno di 200, se no, avessi bisogno di 200.000 euro... Non tu lo non farei, lo faresti, ma io non capisco. Più forte di me non lo farei. Va bene, d'accordo, ma perché condanni, perché condanni chi lo fa? No, io mica condanno chi fa le marchette, chi se ne frega, uno può fare quello che gli pare, però una marchetta è un conto. Enrica, Enrica, Enrica c'è o non c'è? È andata giù. A Cruciani, ha decaduto. La Zanzara. Ma che cos'è peggio per un bambino? Crescere con Nicky Vendola o con Parenzo? Parenzo, perché tuo figlio non lo chiami Benito? Beh, questa non è male, eh? Benito, perché non lo chiami Benito tuo figlio? Bellissimo. Questo mi sembra che lo posso escludere, diciamo, al 2000 per 1000. Cioè, insieme a Mauro e Donato possiamo escludere anche Benito? Guarda, è più facile che lo chiami... No, sì, è allo stesso livello. Esatto. Allo stesso livello, cioè Mauro e Donato sono da escludere. No, però la questione è molto... Oppure Adolf, beh, un Adolf... Io sono convinto che in Israele ci sono un sacco di ebrei che hanno chiamato Adolf il loro figlio. Cioè, no, diciamo, sarebbe interessante, sarebbe una ricerca, rinchiusi in un manicomio. Però, però sarebbe interessante scoprirlo, le persone che si chiamano Adolf. No, a parte gli scherzi, qualcuno c'è, effettivamente hai ragione, qualcuno c'è. Ci sarà, ci sarà. Ecco, però la vera questione è questa, sarà un nome ebraico o un nome italiano? Finalmente, dico io, se mi posso permettere, per carità, senza offendere nessuno, un nome finalmente. Il tuo nome è un nome ebraico, ad esempio? Sì, lo so. Beh, certo. Ah, ecco, vedi, quindi anche tu hai un nome ebraico. Sì, è un nome di origine ebraica. No, diciamo, no, che di origine. Sì, di vabbè, proprio, è un nome. Anzi, la storia di un ragazzo che è stato abbandonato in un pozzo, peraltro, straordinario. Il tuo nome è la storia di un bambino che è stato abbandonato in un pozzo, guarda un po', Giuseppe. Sì. L'ottimo Giuseppe. Però scusa, io voglio capire. In un pozzo, vabbè, poi diventa il consigliere del faraone Giuseppe, no? Il grande Giuseppe. Però viene, ha un'infanzia terribile, viene pestato dai fratelli, malmenato e abbandonato. Fai delle indagini sul perché ti hanno dato questo nome. No, il perché credo che semplicemente perché mio nonno si chiamava Giuseppe, cioè molto semplicemente. Non siamo così raffinati come a casa Parenzo o a casa Zevi, scusa. No, peraltro è un grande personaggio della Bibbia Giuseppe, perché diventa il No, però adesso stai sviando e quando ti si sente bene, beh, è un piacere, devo dire la verità, adesso si sente molto bene, resta fermo, immobile dove perché sei. Vuoi sapere? Nella stanza delle scope. Beh, ragazzi, il collegamento è grande amore per la zanzara questo. Però devo dirti una cosa, David. Delle scope dell'ospedale. Devi ringraziare Beatrice Lorenzi, che negli ospedali pubblici di Roma, bisogna dire, ha delle stanze delle scope attrezzatissime. Però scusa un attimo, non dico il nome perché non voglio. Ma sarà o no? Sarà un grande ospedale. Sarà o no un nome ebraico? Questo è molto interessante come cosa. Sì, questo sicuramente. Ma perché un nome? Perché devi cadere in questo tranello? Dai un bel nome italiano. Sarà anche un nome ebraico, cioè sarà un mix. Credo di sì. Cioè non come Eli Nathan, che non c'ha un cazzo di italiano, diciamo. Beh, oltre alla nazionalità. Vuol dire dono di Dio, quindi sì, è un bel nome quello. È un doppio bel nome, quindi. Vabbè, non ci vuoi dire che nome sarà ancora. Ma qual è? Chi è in corsa per questo? Facciamo fare un toto nome, così almeno facciamo esprimere qualche ascoltatore sul nome, Davide. No, ti dico, puoi. No, ma è una cosa molto. Non è volgare come alcune cose. Ma perché non lo sa nessuno, neanche No, ma un'idea, tu che cosa vorresti, per esempio? No, ma no, se te lo dicessi si scoprirebbe, ma siccome non lo sanno neanche in famiglia, nessuno lo sa, neanche i nostri rispettivi genitori, fratelli. E ti assicuro che domani, quando io farò il riconoscimento, perché domani oggi. Che mettete la X? Che mettete? Che mettete la X? Che mettete la... No, apriremo delle consultazioni online come Grillo stanotte e poi decidiamo di testa nostra. Cioè, facciamo una serie. Facciamo come Grillo, che fa consultazioni. Le nomarie, nomarie. Sì, è bravissimo. La gente decide il nome e poi noi decidiamo un altro e poi giustifichiamo dicendo la rete. Faremo così. Abbiamo già affidato. No, anzi, la rete fa un'altra scelta, esatto, dice esatto. Ma alla fine è tutta una cazzata. È tutta una cazzata, non serve a niente. Ha deciso Casaleggio. Abbiamo già il server dell'ospedale collegato alla Casaleggio associata. Abbiamo già fatto così, tutto. Ti dico, guarda, il nome più votato è Giorgio, come Squizzi. È un omaggio alla Vabbè, ragazzi, dove andiamo? Andiamo. Oppure anche pensavamo Sebastiano. Sebastiano, va bene. Maurizio da Roma, vai, Maurizio. Tutto inventato. Sì, no? Vabbè. Comunque, abbiamo detto Giorgio Sebastiano. Maurizio, Roma, vai. Buonasera. Dimmi. Due considerazioni, che diciamo provocazioni. Uno, sollecitato da Sallusti. Sì, ma però devi togliere il viva voce, già ho problemi stasera con Parenzo. Va bene. Vai, ecco, toglimi via voce, sennò ti do una capocciata. Il problema ce l'abbiamo con Sallusti, il quale dice che si vendono i bambini, eccetera, l'utero è un affitto, è un abominio, no? Allora, l'utero è un organo, la mia considerazione è questa. Il fegato è un organo, col cuore è un organo, ma se è un organo, l'organo principe è il cervello, eppure i giornalisti lo vendono il proprio cervello, lo affittano il proprio cervello. Questo non è un abominio. No, ma io sono d'accordo con te, adesso questa è una metafora. La verità è che questo paese è un paese del cacchio, in cui ci arrabbiamo con l'ISIS perché non vogliamo le donne velate e non vogliamo che le donne non possano guidare la macchina, però noi cattolici ci dicono come dobbiamo vivere e in che maniera dobbiamo vivere, è una follia. No, no, ma io sono d'accordissimo con te. Diciamo la questione dei cervelli è una provocazione. Dunque, sì, si affittano, certo, anche i cervelli e va bene. Però sull'ISIS sono d'accordo. Cioè, tra l'altro c'è una curiosa coincidenza, perché ho sentito diversi islamici intervistati qua e là nelle trasmissioni, eccetera. Un sacco di islamici, come i cattolici, come moltissimi cattolici, condannano l'utero in affitto. Ma perché è evidente che condannano l'utero in affitto? Perché non vogliono la libertà della donna fino in fondo, la libertà di fare dell'utero quello che cazzo vogliono. Guardate, questo è un paese in cui nel Lazio per abortire è una follia, c'è il 93% di obiezione. Io capisco quando è entrata la legge, poveracci i ginecologi che si sono trovati. Ma un medico deve essere obbligato. Un medico deve essere obbligato a fare l'aborto, secondo me. Questo è uno Stato italiano. Se tu fai ginecologia, devi essere obbligato a fare l'aborto. Obbligato. Se sei un testimone di Geova, non fai ematologia. No, ma certo, ma assolutamente. Cioè, è una follia completa. Per avere una legge sulla fecondazione artificiale, abbiamo dovuto aspettare che l'Europa ci dicesse che bisognava fare l'esame sugli ovociti, perché altrimenti l'avrebbero messi senza nemmeno esame, anche quelli malformati, per un discorso, capito, di incomprensione su quello che è la libertà. No, ma hai ragione, io lo capisco questo tuo sfogo, Maurizio. È una follia, è un paese pazzesco, lo condivido. Parenzo, che dice? Guarda, la religione su questa cosa qui non c'entra nulla. Cioè, come non c'entra? Italia... Ma come non no, c'è? Ma c'entra sempre, di... c'entra ma, sempre. Ti dico di più, per l'ebraismo, in alcuni casi l'utero in affitto è anche previsto. Quindi non ti Scusa, ma se accettiamo l'aborto, perché non possiamo accettare l'utero in affitto? E questa è un'altra cosa che non capisco. Accettiamo l'aborto, cioè che venga ucciso un embrione anche, no? Per molti laici, lascia stare le religioni, per molti laici, vedi la Boldrini, vedi la Parietti, vedi anche molti altri, non c'entra nulla la religione. Comunque c'entra. Non c'entra. No, ma assolutamente io non credo che la Parietti sia una brava cattolica, non sta a me a dirlo, ma non penso che ad esempio la Boldrini sia una persona credente. Ma come lei, ce ne sono tanti altri di laici, per cui la religione non c'entra un cazzo, che ritengono che quella pratica lì sia una pratica... Infatti non ho detto che è solamente la religione, però chissà perché c'è una, come dire, un combinato disposto, un accordo tra islamici e cattolici su questo. Ad esempio, nell'ebraismo è previsto, in alcuni casi si può fare anche l'utero in affitto, quindi vedi che la religione non c'entra niente. Vabbè. Non c'entra nulla. Luca da Modena, vai Luca. Luca? Sì, sono Luca del Letame, sì. Ma fammi risentire Telese di ieri. Sì, adesso te lo faccio risentire. Dopo le 8 ti faccio risentire tutto. Hai fatto un'aggressione squadrista al povero Telese. Ma quale? Ma quando mai? Ma quale aggressione? Adesso io chiudo qua, perché in solidarietà con l'agguato fascista che hai fatto al povero Telese. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Lo hai fatto aggredire, perché lui non è più abituato a questi fight club, Telese. Aspetta, fammi sentire Luca. Fammi sentire Luca. Hai fatto un'aggressione. Ma quale aggressione? Ma che cazzo dici? Non è abituato a queste merde. Cioè, stai dicendo che Donato è una merda, non lo scaldare, se no questo richiama, Luca, vai. Che Donato è una merda. Ma questo lo dico ogni giorno, ma non è una cosa nuova. Vabbè, Luca, fammi sentire Luca, dai, su, Luca. Luca, allora, Giuseppe, sì, dicevo che stavo pensando a cosa avviene a scuola, dove l'elementare, dove la religione è una materia facoltativa. Giusto? E devo dire, sì, certo, per fortuna. Certo, no, concordo. Io non la metterei manco come facoltativa. Pensate, che cazzo devi insegnare la religione? Che vuol dire l'insegnamento della religione? E la religione fa parte della storia. C'è la storia, basta, punto e basta. Che c'è bisogno della religione a scuola? Ma io non la metterei nemmeno come facoltativa. Cioè, nemmeno via. Uno la pratica a casa, la studia a casa, eccetera. All'interno della storia c'è la storia delle religioni, eccetera, eccetera. Il Vaticano, il cristianesimo, quello che volete. Perché ci deve essere la religione facoltativa? Ma di che parliamo? Dai, fermo lì. Brucida. La Zanzara. Don't you worry, I'm all right, Jack. We've never had it so good. Giuseppe, dammi una mano, mio padre del 24, ha 92 anni. Ha visto la televisione, ha visto il computer, ha visto internet. Mo è convinto che gli uomini devono partorire e che Vendolo deve allattare. Ma come cazzo devo fare? Don't you worry, I'm all right, Jack. We never had it so good. Don't you worry, I'm all right, Jack. We never had it so good. There's plenty of grass in the country house. We're eating as we should. Hughes and Sandhurst, everything's safe. eccoci ragazzi, grande collegamento con Budapest. Parenzo, ci sei? Parenzo, sì. Parenzo, ci sei? Pronto? Chi c'è? Chi ci può essere da Budapest, amico mio? Quello che è stato cacciato dall'Università di Firenze. Non vogliono farlo parlare all'Università di Firenze. Ma tu devi capire una cosa, all'Università Italiana ci sono papponi, baroni, professori universitari che non sono professori universitari ma sono dei raccomandati con un calcio in culo da parte di qualche parente o di qualche barone, ex terroristi che parlano, chiunque ha parlato. Che cosa succede all'Università di Firenze? All'Università di Firenze non vogliono fare parlare di prostituzione, cioè materia anche sua in parte, non è che lui abbia mai fatto, cioè, comunque roba attinente al sesso, eccetera, eccetera. Rocco Siffredi, non lo vogliono fare parlare, dice che deve passare qualche mese il rettore perché devono stabilire un regolamento. Ma quale regolamento? Cioè, il problema non è il regolamento, è che ve la fate sotto e che c'avete i, siete ipocriti soprattutto, ipocriti. Rocco, dove sei? Come stai, Cruciani? Rocco, grandissimo, come va? Number one. Hai visto che lezione che ti ho fatto? Hai visto che lezione? Senti, io però la materia è vero che è mia perché sono stato per anni a Pignotte, però per quello, non perché... No, solo per quello, è vero, infatti ho detto materia tua nel senso più o meno... Ma perché tu hai mai pagato qualcuna, scusa? Sì, hai pagato qualcuna. Sempre, tutta la vita. Io, guarda, tutto quello che ho preso l'ho ripagato perché poi... La dipendenza è stata abbastanza pesante. Ah, bello, quando eri dipendente pagavi anche le mignotte, sì, diciamo. Sì. Le pagavo, ognuno fa il suo lavoro. Quindi. Beh, certo. Senti, ma come stai innanzitutto? Come stai? Alla grande, bene, tutto bene, tanto lavoro, sempre a lavorare, sempre production, movie, production. Production sempre. Senti, Rocco, fai gli auguri a Parenzo che gli è nato oggi un bambino, questa notte, cioè il primo marzo, gli è nato il terzo figlio. Ah, grande, tanti auguri. Tu sai che questi sono i veri miracoli della vita, ancora i veri piaceri. Tutto grazie, professore. Grazie. Ma perché non lo chiami Rocco? Perché non lo chiami Rocco? Chiamalo Rocco, Parenzo. Perché fino a prova contraria non è il padre. D'Agostino mi ha dedicato, credimi, è vero, il primo figlio di Roberto D'Agostino è chiamato Rocco. Questo lo so. Io sono stato anche in... Tu sei stato, scusa? Invitato al battesimo, cioè, di Rocco. Tu mi stai dicendo, che il figlio di Roberto l'ha chiamato così anche in tuo onore? No, in mio onore. In tuo onore. Anche in mio onore 20 anni fa. Beh, ragazzi, meraviglioso. Senti, Rocco, ma Parenzo, però è un bel nome, Rocco. Io c'ho un sacco di persone che... Bellissimo nome, è il nome del figlio del mio amico Bellasio, peraltro. Quindi è un nome che lavora anche in questa radio. È un bellissimo nome, certo. Perché non vai per Rocco? Scusa. No, perché poi diventa impegnativo. Il problema del nome Rocco oggi, ho tanti amici che hanno chiamato i figli Rocco. Sì. In automatico, a scuola... Rocco Siffredi, non è che dicono Rocco qualcun altro, e quindi bisogna portarsi dietro. Io ho un tipo che mi dice: Rocco, il tuo nome è bello da un lato, dall'altro lato uno è vero. È vero, perché c'è anche Rocco Casalino per quello, quindi. No, vabbè, ci sono un sacco di Rocco, c'è un sacco di gente che conosco. Rocco Papaleo, Rocco, ce ne sono tu tanti, dici che però, chi, però ti dici quelli che hanno chiamato Rocco, i bambini adesso potrebbero avere qualche problema, insomma, si guardano sotto e dicono: cazzo, ma io non posso essere all'altezza, no? Cioè, più che altro ansia da prestazione, perché almeno quelli che mi hanno detto a me mi dicono: le donne fa, vediamo se sei anche come lui a letto, lì è tutto. Senti, man, insomma, questa università. Ma tu ti rendi conto o no? Cioè, ma te che ti hanno detto alla fine? Diciamo qualcosa al rettore, alla gente. Diciamo però che io non è stata una mia idea, e tu sai benissimo che io vado al Prato, e quindi è stato organizzato in concomitanza con 4 fazioni politiche. C'erano i rappresentanti di tutti quanti. Sì, vabbè, tutti ma quello. Hanno accettato. Sì. Tutti hanno accettato, tutto a posto, 2 di 3 docenti hanno no, ma non hanno detto Siffredi no, si presume, hanno detto no a prescindere, non hanno detto Rocco. Io presumo che sia io, perché... Ma certo, alla base, per forza, dai. Alla base se ci andava qualsiasi altra persona al posto mio andava bene e l'avrebbero fatto, però non lo so perché c'è proprio una sorta di... imbarazzo. Sì, ma in realtà tu sei andato... Il mio nome è ancora imbarazzo. Sì, questo è sorprendente in un paese che ormai è aperto a qualsiasi cosa. Ma che cosa avrebbe dovuto insegnare a quel punto? No, doveva parlare, credo, di prostituzione, no? C'era una discussione sulla prostituzione. No, io avrei dovuto dire la mia per quanto riguarda le case chiuse, avrei dovuto dire la mia per quanto riguarda, ma sai, oramai siamo sul moderno, innanzitutto le case chiuse stanno dappertutto su internet, dove vai vai, ricevono tutti a casa. L'idea qual è? Era di dire, infatti forse non ha neanche più tanto senso la storia delle case chiuse, in realtà. Sì, vabbè, ma al di là del merito, Rocco, no, ma del merito, perché qualcuno ha paura di Rocco Siffredi? E questa, chi è che ha paura oggi di Rocco Siffredi? Cioè, di lasciar parlare Rocco Siffredi, che ha fatto i programmi in televisione, viene invitato, cioè è un personaggio addirittura che potrebbe andare tranquillamente nelle famiglie degli italiani a parlare tranquillamente anche a una famiglia di quelle tradizionali, normali, o no? Non ti senti uno di questi? Io 100%, però forse ho fatto un film tanti anni fa con qualche parente del professore, che tutto è possibile perché non oppure lo so, ti sei scopato la moglie di qualche professore, oppure il professore ha beccato la moglie a masturbarsi sui miei film, cosa molto possibile. Sì, cosa possibile anche questa, devo dire, che pensa il professore. Sì, anche questo, al di là di questi, cioè tu dici che per esempio il rettore, no, tu hai fatto dei film con delle metafore sui rettori dell'università, sempre per cui sempre. secondo me ti sei fatto la figlia del rettore. Secondo me ti sei fatto la figlia del rettore. Di retto noi ci andiamo molto pesante, quindi magari non gli è piaciuta la trama. Il rettore per retto. No, in realtà non lo so. Io credo che... Il retto allora, del rettore. Il retto del rettore. Devo dirti che adesso mi ci sto abituando alle scuole italiane, perché io avevo fatto una citazione poco tempo fa e il liceo scientifico Alessandro Volta di Milano mi ha dato gli studenti tutti impazziti per assistere alla prima lezione di educazione sessuale a scuola, che era una provocazione, non è che io voglio ambire ad andare a fare le scuole l'educatore. Ma ci sei andato? Ci sei andato poi? No, il problema è questo, mi hanno invitato, poi quando hanno chiesto il permesso al preside, il preside ha detto un secco no. Ma anche perché, ragazzi, quindi... ragazzi, la questione è questa, Rocco è uno camaleontico, si può adattare alle situazioni, viene da noi e parla liberamente, va a scuola, non è che si mette a parlare in maniera esplicita di alcune cose sessuali. Ma io ti dico la verità adesso, in realtà il discorso è tutto semplice, cioè non è che bisogna andare a fare educazione a scuola, bisogna andare a scuola a spiegare a questi ragazzi che la pornografia non è che io vada a dire come fare le posizioni, come fare i rapporti, spiegare che la pornografia è un atto sessuale che riguarda un genere di cinema che è legato non all'educazione ma ad altro. Noi dobbiamo motivare, così come un regista. Scusa, ma tu i tuoi figli quanti anni hanno? 20 16. 20 e 16, che è un maschio e una femmina, o tutti e due maschi? Non due mi ricordo. Maschi, due maschi. Due maschi, ma se volessero fare gli attori porno, cosa gli diresti? Ma guarda, ti dico la verità, loro sono cresciuti nella pornografia anche da piccoli, perché mi vedevano in giro per il mondo, e adesso? Nei saloni dell'erotismo. Ma lo vogliono fare? Fare o no? La verità, il secondo ha una fidanzata da 4 anni, il ragazzo più fedele al mondo, ogni tanto viene ad aiutarmi a me sul set, ci sono le russe, francesi, ungheresi, lo vedono, un bel ragazzo. Non gliene frega niente. Rocco, ma ce lo possiamo fare? Io gli dico, Lorenzo, guarda, ci sono un po' di ragazzi che... E lui mi fa, papà, no chance, non hanno chance. È troppo fedele alla fidanzata. Addirittura, cioè potrebbe fare qualsiasi cosa con le donne che vengono... No, ma guarda, io sono orgoglioso di questo. E quel primo, invece? Il primo? No, questo è il primo. Il secondo, il più piccolo, è ancora, tra virgolette, minorenne, quindi su set non ce lo portiamo. Però lui non vede l'ora di venire su set, ecco. Abbiamo due personalità diverse. Ah, ecco, questo è interessante. Il secondo, invece, vorrebbe fare l'attore porno. Ma non ha mai detto di no e si fa la risatina e il sorrisino. Certamente, avendo un papà come me a fianco, di sopra e di lato, è un po' ingombrante, capisco anche l'imbarazzo e capisco anche che si devono mettere un po'... Però tu non glielo proibiresti? No, assolutamente no, però gli farei capire che se si tratta di emulare il papà è una grande stronzata. Ma come sono messi? Come sono messi da quel punto di vista? Il piccolino pare il primo bene, il piccolino pare peggio di me. Quindi, no, quindi, addirittura. In teoria, è addirittura anche imbarazzato a tirarselo fuori. Beh, con ragazzi, le amichette. Cioè, abbiamo il Rocco 2 la vendetta addirittura. Cioè, qui si prepara, vera. Si prepara quello veramente una lunga tradizione, però, di Siffredi. Però per adesso per adesso si è buttato sull'atletica, è stato selezionato dal team ungherese di atletica, quindi tutte le energie le sta mettendo sullo sport, è la cosa più bella. Capito Parenzo? Cioè qui la gente non sa neanche uno, cioè, per esempio, se tuo figlio volesse fare l'attore porno, tu saresti dispiaciuto? Moltissimo, ma io sono un bacchettone. Sei molto, un bacchettone, sì. Sei molto bacchettone, sì, sei molto bacchettone. Sono onesto, molto, moltissimo. Mi piacerebbe, sarebbe una tragedia. Maggia, ma non corri questo, secondo me non sai, corri. Parenzo, lo sai qual è stata la mia più grande fortuna? È avere una mamma che mi ha, che ha accettato la mia felicità. La mia felicità era fare l'attore straordinario. Bravo, hai visto che lezione che ti sta dando. E lei ha accettato questo e mi ha dato tanta, veramente. No, ma per carità, io... Senti, no, ma questa è importantissima. Io perché sono sempre d'accordo con quello che dice Rocco? È quasi imbarazzante. Senti, Rocco, una cosa. C'è la notizia che da mesi circola, noi abbiamo invitato un sacco di gente a parlarne, eccetera, però solo tu ci puoi dare una risposta definitiva. È vero che i vegani lo fanno meglio? Cioè, riescono a trombare meglio i vegani? Tu che sei vegetariano, anche tu sei diventato così? No, io mangio di tutto e non mangio tanto prima di far sesso, questa è l'unica regola. E dunque non è vero che i vegani, perché qualcuno dice che a me non risulta. Non ti risulta, è una panzana, sarà una cazzata. Tutti i bar che conosco, nessuno di loro pratica questa. No, assolutamente no. Nessuno di loro è vegano. Senti, ma tu no. Invece sulla questione... Siamo molto ano, ma senza sedia. David, gli vogliamo chiedere qualcosa di politico, questa cosa di Vendola, secondo te? Però chiediamogliela, però non si può chiudere così quello sto scandalo dell'Università di Firenze che non lo ha accolto, perché effettivamente l'Università di Firenze, se non avesse invitato a parlare di fisica quantistica, uno potrebbe dire ma cosa c'entra Rocco sulla fisica quantistica, sull'ingegneria termonucleare, ma in realtà l'hanno invitato su un settore di sua pertinenza, di sua competenza. Ma ragazzi, ma qui evidentemente perché hanno paura della popolarità, hanno paura di affrontare certi temi con una persona che pensano che sia volgare, invece Rocco non è affatto volgare, è uno che parla con competenza di alcune cose, può dire la sua sulla prostituzione, su tante cose, ma è una persona che ha vissuto molto, molto meglio di tutti questi professori che sono rinchiusi nell'ufficio e non sanno un cazzo della vita normale. Da vedere a cosa serve quella lezione. Però. No, ma è così, sono della gente. Ma a cosa serve? Era organizzato dai giovani per parlare di prostituzione delle case chiuse. Uno come Rocco poteva fare la sua porca figura. Ma scusami Rocco, ma al di là del fatto che qualche professore può avere avuto dei problemi con te, con forse come hai detto tu prima, ma che vogliamo dire al rettore dell'Università di Firenze? Non avere paura di me, vengo, diciamogli qualcosa. Non avere paura, ripensaci e soprattutto io verrò con un gran sorriso e giustamente come dici tu, zero volgarità. Poi, in realtà io credo che già una persona ha cambiato idea, manca la terza, forse si farà, io sì. Sono positivo, certo. E spero che si faccia, mi fa piacere andare all'università, ma certo, comunque sono stato, ci sono già stato all'università, la Sapienza, insieme sì. A Ceccherini per il film Boldi, ci siamo divertiti, quindi per me andare all'università, andare a scuola, andare a parlare con i giovani, mi fa solo piacere. È una figata. Ma ragazzi, ma scusa, nel tempo, secondo te, è vero che diventa più piccolo il pisello passando con gli anni che passano, o no? Cioè che normalmente dipende se lo utilizzi, se lo molli può darsi di sì, però io so che i testicoli si allungano. Quello addirittura, so, i testicoli si allungano. Sì. Mamma mia, i testicoli si allungano, a me però si sono un po' rimpiccioliti perché io continuo invece a praticare tanto, infatti non soffro di prostata, mi hanno trovato una prostata perfetta, il che la dice lunga. Ecco, questo è importante perché noi è una cosa che diciamo sempre, cioè più trombi, tu sei quello che è praticamente inattaccabile da questo punto di vista. Cioè, più guarda, mi hanno fatto mi faccio gli esami ogni anno perché sai, a una certa età sono quasi 52. E mi hanno detto la tua prostata per quello che ci fai è perfetta. Dunque ragazzi, diamo un consiglio a chi non si vuole ammalare di prostata: trombate. svuotare quotidianamente se ce la fate, se no anche ogni due giorni. Comunque in realtà l'appello vero da fare in modo elegante e non volgare all'Università di Firenze per fare dovrebbe essere semplicemente questo: fatelo venire. Questa è buona, senza dire volgarità, senza fare allusione. Fatemi venire, Rocco. Questo è il titolo. Ma detto senza volgarità, per lui che ha deciso, rettore, mi faccia venire, mi faccia ecco. venire e non la deluderò. Ecco, no, ma nel senso che a fare una lezione, cioè questo. Sì, ma assolutamente. Chiaro. Vedi che Parenzo ogni tanto, quando è concentrato, no, quando è concentrato, dà il meglio di sé, dà il meglio di io, sé. Io voglio, no, però io voglio invitare Parenzo sul mio set a Budapest, a Rocco Sword, e lui cambierà idea sul mondo del porno. Lui capirà no, che si tratta questa, di un lavoro vero. Perché non vai a fare un bel reportage per la set sul grazie, set di Rocco? Questa può essere un'ottima idea. Fatemi venire, ottimo. Verrò volentieri, ottimo. Allora, però guarda che una volta che arrivi qui poi ti facciamo venire noi, eh. No, ma no, io vengo con la mia telecamera, vengo volentieri. Fategli che... tradire la moglie, ti prego, Rocco, se arriva là, fategli no, tradire Natania, ti prego. 100%, fidati. Tu lo sai che è una bellissima donna, signora Natania Zevi, sì, caro no, Rocco, sì. Non l'ho vista. Beh, vai a vedere, no, Natania Zevi, meno male. Meno male, meno male. Senti, Tinto Brass ha detto che vorrebbe fare un film con la Boschi, arriva dopo però, o a te ti attira qualcun altro per un film? No, la Boschi non male, mi piace molto. Sì, però... Mi piace molto, mi piace molto perché, voglio dire, è sempre in carne, bella un'italianona in carne, come piace molto, ci farei... La vedete molto bene in una super gang. In una super gang addirittura, gang, una sì, super gang, sì, sì. Cioè in mezzo alle prese con tanti uomini, tanto per spiegare chi sì, non fosse. 8-10 ragazzi. 8-10 ragazzi. Specialmente quelli dell'Accademia Nuova che ho sono molto potenti, quindi sarebbe una bella scena. Perché caro Parenzo ha aperto l'università del porno da poco, anche se non si Mi pare questa senti, cosa Rocco, Rocco possiamo dire una cosa, cioè una notizia molto chiara. Tu all'anno quanto guadagni? Cioè in tutto, tra tutte le attività all'anno, dal tuo reddito 2015 hai fatto un conto più o meno 1.000.000, 2.000.000, 3, 4, 500.000 quanto? una volta sì, ma oggi quanto guadagni? No, si guadagna di meno perché nel porno si guadagna molto molto di meno. Che ne so, e... nel 2015 quanto avrai guadagnato in tutto? Ma lo so, se il numero uno diciamo che guadagno bene, oppure quello che dici tu. Esattamente quello che dici tu, 1.000.000 con molti tipi di lavori abbinati. Ma non mi mica dicevo solo per il porno, cioè più o meno hai un reddito da 1.000.000 all'anno. E quanti soldi hai messo da parte nella tua vita, se li hai messi da parte? Cioè puoi stare bene... Cioè, che diciamo che non mi lamento, ho qualche proprietà e continuo ad investire, poi cioè, gli investimenti nella vita tu sai, si fanno. Poi cioè i tuoi figli possono stare tranquilli per le prossime generazioni, diciamo la verità, se no, non fanno i pazzi. Assolutamente no, no, assolutamente no, ma poi tra virgolette ti dico anche un'altra storia, non mandava, certamente lasciare qualcosa ai figli è bello, però secondo me quando si lascia troppo i figli si cresce degli emeriti coglioni, ecco, questo è quello che non voglio. No, ma è quindi... vero, perché non bisogna lasciare un cazzo ai figli, questa è la realtà, si devono fare da sì, soli. Ecco, poi alla in fine... realtà anche questo sarebbe la cosa migliore, perché sennò alla fine non ti godi nulla. Io credo, gli ho detto solo una cosa ai miei figli, ragazzi, tutto quello che vi fate voi, anche una lira, con la vostra testa, quello che avete raggiunto voi ha un altro sapore, un altro... Ma certo, un'ultima cosa, Rocco, Bendola è andato a fare l'utero in affitto in California. Che gli vuoi dire al signor Bendola con l'utero in affitto? Tu sei a favore, immagino. Auguri e figli maschi, nel senso che la felicità è la cosa più importante nella vita. Se questo lo rende veramente felice, auguri e... Ma tu sei a favore dell'utero in affitto, sì? Guarda, io ti dico la verità, io te l'ho detto prima all'inizio, io sono a favore dei tempi moderni, il mondo sta cambiando. Per cui ha fatto bene andare là a fare un figlio artificialmente, come dicono, no? Cioè, sì. Ma sì, tanto oramai, voglio dire, alla fine quello che conta è l'amore, se glielo sa dare l'amore... Bravo, Baro, bene. Ciao Rocco, a presto, ciao. Viva, forza ciao. Rocco, l'Università ciao, di Firenze, abbassi i bigotti, rettore, svegliati, fallo venire, come dice Parenzo. Cruciani, sei proprio un cretino. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. E adesso... Così richiedeva Parenzo, abbiamo per la rubrica Tipi da Zanzara Donato da Varese versus Telese. Tipi da Zanzara. Donato da Varese. Grazie, qui c'è quello lì, come si chiama? D'Artagnani, mi sembra, in stereo. D'Artagnani. Telese. D'Artagnani è bello. Vai. D'Artagnani. D'Artagnani hai fatto un complimento però, Donato. D'Artagnan, sempre magro come D'Artagnan. D'Artagnan in miniatura. Quello che c'hai a fianco, che se fosse stato per me Berlusconi, quello non gli avrei messo nemmeno la scopa in mano a questi bastardi comunisti che comandano tutto, adesso anche l'utero delle donne, come e vanno in magistratura, ci sono quei porci di magistrati che dovrebbero essere messi in galera, i magistrati dovrebbero essere messi in galera, andranno a prendere con la collottola, macinarli, sì, voglio andare in galera, ma alcuni magistrati devono essere uccisi. Questo bastardo che c'ha a fianco a te, questo che ha fatto? No. Il genere di Berlinguer, il santone di merda Berlinguer. Ma che c'entra adesso Berlinguer? Io dico quello che dico per andare in, io voglio andare in galera, lo dico. Che vuoi? Berlusconi mi deve dire. Perché ti deve vedere anche a figlio questo sporco comunista. Ah, perché ha ingaggiato perché Berlusconi ti riempie di questi comunisti molto perché di Berlusconi in quella rete di merda c'ha tutti questi comunisti figli di puttana, è un modo di dire. No, questi qua sono tutti ricchi, questi porci moriranno tutti ricchi. Tutti ricchi, non conosco un uomo di sinistra che è morto povero, a meno che non sia stato defraudato da una puttana svedese. Tipi da zanzara. Hai capito, David? Ma è un'aggressione a mano armata. Parla più forte, che hai detto? No, non posso, devo staccare, perché non si sente più niente. È un'aggressione a mano armata. No, che staccare? Vai di nuovo dalle scope, sentiva benissimo, sei pazzo. No, non si può, non posso più, ho chiuso tutto. Così, ottimo, fermo lì che è stupendo, guarda, si sente benissimo così. Si sente benissimo. Marco da Prato, fermo lì, Marco da Prato. Pronto? Sono in linea? Sì, dimmi Marco, dimmi. Sì, ciao, volevo fare una domanda a Parenzo. Vai, dimmi. Voglio sapere qual è il prezzo di Parenzo per prendere in quel posto? Ma no, non c'è. Non c'è. Come non c'è? Allora, no, perché parliamo di numeri. 10 milioni d'euro? Ma che c'entra? Ma che senso ha? Ma nessuno è disposto a dare 10 milioni di euro per mettere il culo a Parenzo. Semplicemente ognuno ha il suo prezzo. Quindi Ma che senso ha? Ma io voglio che Parenzo mi risponda. Ma per 10 milioni probabilmente dice di sì, no? No. Vediamo se mi risponde. Non c'è prezzo per questa cosa. Come non c'è prezzo? Ma neanche 10 milioni d'euro? Ma no, non esiste il prezzo per quella cosa lì. È talmente... Neanche 10 milioni d'euro. Dalla mia logica che non c'è prezzo, ma dopodiché magari qualcun altro invece lo fa anche per 10 euro. Molto meno, quello senza dubbio. Quindi 10 euro. Sì, ho capito, ragazzi, però io ho detto 200.000. No, ragazzi, 200.000, ma alla fine una piccola, come dire, inchiappettatina. 200, non è, che può essere mai? Vai lì, una piccola inchiappettatina, va bene, d'accordo, ma mica deve essere una roba così dolorosa, no? Beh, questo lo dici tu, ma non c'è prezzo, appunto, non voglio provare, quindi non c'è prezzo. Va bene, Piero da Venezia, vai, Piero. Sì, Cruciani, buonasera. Io veramente preferivo intervenire dopo quel signore che parlava dell'organo sessuale di suo figlio minorenne e lei ci sghignazzava sopra. E beh, sì, è il figlio del signor Rocco Siffredi, eh? Cioè... Sì, ma insomma benediceva l'utero in affitto. Ma volevo chiedere a lei di ripetere un momento la questione delle fabbriche dei bambini, perché non so se ho capito bene, bellissime. Stupendo, meraviglioso, io trovo tutto meraviglioso, sì. Tutto. No, trovo tutte queste cose qui meravigliose, ho detto che ovviamente quando ci sono i controlli necessari, quando le persone lo fanno non perché schiavizzate, ma perché hanno bisogno di soldi e dunque si sottopongono a controlli, cioè deve essere tutto a norma naturalmente, no? Deve essere tutto regolare. Perché schiavizzate, ma perché hanno bisogno di soldi, mi spiega questa cosa? Sì, ma la cosa della schiavitù, ragazzi, è inutile illudersi, la povertà c'è stata, sì. C'è? E sempre. Ci sarà, e ci sono, certo, persone che cercano di uscire dalla povertà in tutti i modi. Ovviamente sì, si cerca di uscire in maniera legale. Sì. Se uno vuole sfruttare una parte del proprio corpo per sottrarsi alla schiavitù della povertà, quella è anche una delle schiavitù, è un principio anche di sinistra, se vogliamo, no? Io non capisco qual è il punto, qual è il problema. Cioè, non capisco. Ma se non lo capisce, allora lei dovrebbe evitare, a mio parere, l'iperbole, il graffio, la provocazione, anche perché sa, Cruciani, lei lo fa per soldi. Lei è pagato per questo, però... Ma io sono pagato per essere me stesso e per fare una trasmissione. Non si rende conto, la sua intelligenza non le consente di rendersi conto. No, sono ignorante. Fa queste affermazioni. Quando lei fa queste affermazioni, la gente può anche crederle, può appunto aprire dei dibattiti. se ne rende conto lei. E allora una volta che mi crede, una volta che... Ma quale danno? No. Qual è il danno? Non è che la gente domani decide, cazzo, Cruciani ha detto che si può fare l'utero in affitto. Enorme, andiamo... enorme danno, perché appena adesso lei ha messo in dubbio questa cosa, dicendo, beh, se ne potrà venire fuori economicamente, però prima ha detto che è bellissimo. No, ma è bellissimo, nel senso che a me piacciono queste cose qui, i progressi della scienza, che riescono a far felici le persone, perché mettono al mondo, diciamo, tra virgolette, riescono ad avere un bambino, e le donne che ovviamente non so, i traumi non li possiamo giudicare da qui, e le donne che ottengono dei vantaggi economici da questo, punto, molto semplice. Allora, la cosa. Allora, visto che ha detto che i drammi e i traumi non li può giudicare da qui, mi spiega da cosa può far discendere che le donne saranno felici? Come fa a dire che lei le donne è a favore dell'aborto? Lei è a favore dell'aborto? No, non sono a favore dell'aborto. No, beh, allora diciamo lei, diciamo, su questa cosa qui è abbastanza coerente. C'è come gente come Parenzo che è a favore dell'aborto ed è invece contrario all'utero in affitto. Della mia coerenza, Cruciani, si preoccupi della sua e del fatto denaro, prima o poi ci pensi, per denaro spara delle puttanate gigantesche. Qual è il denaro, scusa, in questo caso? Dov'è il denaro? Il denaro che Radio 24. Ma che cazzo c'entra quello? Ma cosa c'entra? Il bello è che lei lo sa benissimo. Ma cosa c'entra? Perché deve dire queste? Lei è un imbecille, perché non c'entra nulla. Lei un... I soldi che io prendo. Questo la dipinge, guardi. I soldi, Piero, scusi un attimo, imbecille per quello che dice, naturalmente, non per cui, non in assoluto. Piero, scusami un attimo, abbi pazienza. La cosa è molto semplice. Io cosa c'entra il denaro che io prendo da Radio 24? Cosa c'entra? Semplicemente perché istinti più bassi delle persone. Ma quali istinti più bassi? Perché fare i figli con l'utero? Io sto semplicemente dicendo una cosa, esattamente quello che penso. Cioè fare i figli con l'utero in affitto, secondo me, dovrebbe essere consentito anche in Italia. Anche in Italia, chiaro? Benissimo, salvo il fatto che ha appena detto che lei non se ne preoccupa perché questa non è la sede dei drammi e dei traumi che possono esserci dietro. Ma non allora che non me ne preoccupo, quello sono affari delle persone che si sottopongono a questa roba qui, non è un affare mio, scusami. Cioè, se una vuole cedere il suo utero per mettere al mondo un bambino, avere dei figli, dare questo figlio dopo a qualcun altro, saranno cazzi suoi, non è che me ne posso occupare io di questi traumi. Se lo fa liberamente. Significa semplicemente che lei se ne trasbatte. Ma per forza me ne devo trasbattere quelli che sono i dolori delle persone. Vabbè, invece lei se ne occupa. Invece lei se ne occupa e allora è migliore di me. Dai, su, Piero, su, fermo là. Insultar Parenzo, comincia tu. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Cagare, ma è quel cagare che fa godere. La Zanzara è un meraviglioso allucinogeno. Peccato che dopo 2 ore si ritorni alla cupa realtà. A proposito di vitalizi e di politici, litigio tra Biancofiore, Forza Italia e uno dei leader di questa associazione dei consumatori, o com'è che si chiama? Rienzi. Sentite Rienzi. Chi ce l'ha il sommerso? Chi ruba? Chi ruba tutti i poveri e meno poveri? Non sono i ricchi, non sono i ricchi! I poveri e meno poveri in Italia rubano tutti! Parliamo di roba seria. No, guardi che lei non si permetta di dire che ha rubato. Avrà rubato lei. Non si permetta, io la denuncio. Ha capito? Non dica che io ho rubato. Lei è un mascalzone. Lei è un mascalzone. Non si permetta mai più di dire che ho rubato. Ha capito? No, io non ho mai rubato in vita mia. Non ho mai rubato. Non ho mai rubato in vita mia. Non ho mai rubato in vita mia. Non ho mai rubato in vita mia. Non si permetta mai più, non si permetta mai più, la denuncio io, la querelo. Potito Salatto contro Biancofiore. tutti in Italia rubano, dice la Biancofiore, quinta colonna, questo non so come si chiama, là, quello della sera. Io non ho rubato, la denuncio. Vabbè. Massimo da Taranto, vai Massimo. Ciao Zanzara, volevo fare una domanda a tutti quelli che si stanno un po', diciamo, ponendo dinanzi all'eventualità di un'adozione gay e quindi davanti alla crescita di un bimbo senza la figura della madre o del padre. Come mettiamo che da secoli esistono casi in cui molti bambini crescono in ambiti in cui, come gli orfanotrofi, no? Dove ci sono solo figure maschili, per esempio, preti, e addirittura, chissà, poi uno va a sindacare, diciamo, all'interno di queste strutture, ci sarà anche qualche gay, a noi non interessa, però voglio dire, come la mettiamo con questa storia? Non ci siamo mai preoccupati di questo fenomeno? Solo adesso ci facciamo tutta una serie di problemi? È una domanda. No, ma hai ragione a porti questa domanda, cioè, ci sono tanti casi di persone che sono cresciute in maniera non tradizionale e non capisco qual è il problema se nascono con due lesbiche, con due omosessuali, eccetera eccetera. Cristina, provincia di Venezia, dai. Buonasera a tutti. Dimmi. Ciao, intervengo per la cosa dell'utero in affitto. Una donna difficilmente fa una scelta di questo genere se non indotta dal bisogno. Quindi il problema... Assolutamente, si fa solo per soldi. Perché tu hai detto se una donna lo fa liberamente. Ma no, ma non liberamente perché sceglie di farlo per dare un bambino a qualcun altro. Lo fanno per soldi, per quattrini, sia chiaro. Poi ci sarà qualche caso di qualcuna strana. Ma questa cosa si chiama sfruttamento. Ma sfruttamento di che cosa? Scusami, spiegami. Sfruttamento di che? Una donna, se decide liberamente di fare... È una condizione di bisogno. Ah, ma no, perché non esistono le persone che sono in condizione di bisogno? Non esistono le persone in condizione... Assolutamente sì. E allora... Uno fa tanti mestieri, tra tanti mestieri. Ma voglio dire, come non possono vendere un rene, non possono vendere un figlio. Non è la stessa cosa. Su, là ti stacchi. No, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. No, non è. A parte che se uno vuole, se uno vuole, si sta con rene. Tu impedisci lo sfruttamento. Come invece dovrebbero legalizzare la prostituzione? Perché in questo modo. Ah, in quel caso, però, uno in quel caso può andare a sfruttare l'utero di una donna per piacere, per scopare. Invece, non si può sfruttare per fare un figlio, no? No, non sfrutta, perché la donna in quel momento gestisce la transazione, nel caso dell'utero in affitto non la gestisce perché è unicamente per una questione di bisogno economico. Ma certo, ma allora che ti fa schifo? Non ho capito perché ti fa schifo il fatto che una donna che io ha bisogno... Non ho detto che mi fa schifo. Vabbè, più o meno, dai, cioè che ti fa orrore, che ti sono fa... parole, ma neanche... No, e che cosa ti fa? Scusami, se ho utilizzato ho detto, un... Che un cosa? Paese civi... Io, In un paese civile? La legge non dovrebbe consentire. La legge non dovrebbe consentire. Dunque, questa cosa qui non ti piace, diciamo, no? Si può utilizzare questa parola. Non ti piace. Benissimo, non ti piace. Ti fa, come si può dire, ti dà fastidio? È meglio così? Ti dà fastidio? Com'è meglio? Non mi piace dare fastidio a un'altra cosa. Non ti piace come cosa? Tu parla con il tuo linguaggio. Ma non è quello, dai, ti fa schifo una donna che vende il proprio utero. Questo è il punto, ti fa schifo, ti fa ribrezzo. Va bene ribrezzo? Non è una parolaccia, né ribrezzo né schifo. Ribrezzo, va bene ribrezzo? Sei come al solito autoreferenziale. No, non è autoreferenziale, ti fa ribrezzo o no? Ti fa ribrezzo o no? No, ribrezzo non è. Non ti fa ribrezzo, bene, ti dà fastidio. Non vuoi dire che mi fa ribrezzo, esprime un giudizio morale che io non voglio dare. Non vuoi dare un giudizio morale, bene. Allora, chi lo fa, che cos'è secondo te? Una donna che lo fa, che cos'è? È una poverina che lo fa per bisogno. Una poverina che lo fa per bisogno. Questo invece non è un giudizio, non una poverina che lo fa perché non è un dato oggettivo, perché lo fa per bisogno di soldi. Ah, non ho capito. Allora una persona che ha bisogno di soldi non è perché è poverina? Perché è poverina? Io non provo. Perché è poverina una che ha bisogno di soldi? Spiegami, perché è poverina? Perché è poverina? È una persona che ha bisogno di soldi, allora? Quindi è un dato oggettivo. È una persona, sì. Dunque non è poverina né poverina, è una persona che ha bisogno di soldi. Tu la giudichi dicendo poverina. Ma non la giudico, è un dato di fatto. Ha bisogno di soldi, quindi non ha condizioni. No, ma poverina non la intendevi in senso economico. Ci sono comunque le persone che hanno una condizione economica che gli permette di fare delle scelte libere. Questa non è una scelta libera, ma è indotta da un bisogno. Ma no, ma che cosa strana. Quindi, cioè, c'è gente che prova piacere, a rimanere incinta e dare i soldi a qualcun altro. È uno sfruttamento. Uno sfruttamento, benissimo. Questo bisogno. Uno sfruttamento di questo bisogno. Bene, grazie Cristina, grazie. Tommaso, provincia di Imperia. Buonasera, ciao Cruciani. Niente, io volevo dire riguardo lì all'università che l'hanno fatto parlare, come si chiama, Rocco, non hanno fatto parlare nemmeno il Papa all'università questi qui. Ma no, ma che dici, il Papa all'università, dai. Sì, a Tor Sapienza lì, dove, quando era andato ha dovuto rinunciare, non è potuto andare. Ma non mi ricordo, ma per altri motivi all'università lo avevano invitato, dai Tommaso, non dire stupidaggini, dai, sì, su, forza. E poi volevo dire anche un'altra cosa su l'utero in affitto, come la signora precedente. Sì, ma ognuno il tempo se lo fa pagare come vuole, lei in 9 mesi se lo fa pagare in una certa maniera, io faccio l'artigiano, vendo un'altra cosa, è la stessa cosa, no? Sì, no, ma io sono d'accordo con te, cioè, assolutamente. Cioè, ma tra l'altro c'è un disprezzo nei confronti della donna. C'è un disprezzo nei confronti della scelta individuale di una donna, la quale si sottopone a una gravidanza di 9 mesi, scegliendo di farla per bisogno economico. E non capisco perché. Poi sono tutte persone chiaramente ricche che lo dicono, no? La maggior parte sono tutte persone benestanti, ricche, che non hanno bisogno. Dunque, non si immedesimano nelle persone che hanno bisogno. E che vogliono sfruttare una parte del loro corpo, magari lo fanno malvolentieri, come uno che malvolentieri fa la, che ne so, la bidella. Io faccio il muratore perché ho bisogno di soldi. Certo, non perché godi a mettere le mattonelle, no? Magari fatichi anche, non capisco perché invece non si possa utilizzare il proprio utero, cioè una parte del proprio corpo, per guadagnare. Cioè, una cosa veramente di un razzismo, la trovo, cioè, pazzesco. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want action? Gonna bring you down 'cause you've been pushing me. You gotta recognize my superior. Allora ragazzi, voglio sapere qualcosa in più da un signore che è collegato con noi, che si chiama Nicolas Pilarz e che pratica una roba che si chiama respirianesimo, credo, cioè è un respiriano. Buonasera! Buonasera a tutti! Come stai, Nicolas? Come stai? Io sto benissimo, grazie. Senti, ma quanto pesi? E adesso il mio peso è di 67 kg circa. Sì? Sì. 67 kg. Io voglio capire, in questo momento tu, parlando con noi, stai sprecando energia o ti stai nutrendo? Stai un po' sprecando, secondo me. No, assolutamente. È sempre uno scambio di energie, no? Tra quello che noi facciamo e l'universo, quindi è così che si nutre. È così che ci si nutre. No? Allora, tu ti nutri d'aria e sostanzialmente mangi pochissimo, anzi praticamente non mangi. Quante volte mangi, che ne so, a settimana? Allora, nel termine respiriano si pensa che è l'aria, però nell'aria c'è gli atomi, c'è i neutroni, c'è i protoni, c'è tantissima la gravità, le radiazioni, tantissime cose, no? Quindi quando si dice respiriamo è perché è tutto l'essere che respira, tutti gli atomi, tutte le cellule, non è solo l'aria stessa. Cioè tu sei diverso comunque dai vegetariani o dai vegani, cioè tu non consideri chi mangia la carne un assassino, un affamatore del pianeta, eccetera, eccetera, o sbaglio? No, è un procedimento evolutivo, un'espansione della coscienza, quindi cioè chi mangia la carne per te chi è? Cioè sbaglia chi mangia la carne? No, cioè ognuno c'ha il percorso, nessuno sbaglia, cioè tutti quanti ognuno c'ha la sua verità e il suo percorso. E tu, no? E tu perché sei arrivato al percorso? No, perché sei arrivato a diventare respiriano? Allora, prima di tutto perché quando ho ricevuto l'informazione mi ha interessato, no? E quindi io ho sempre avuto un problema, diciamo, con il cibo, non ho mai avuto una stabilità, sono sempre stato un po' in sovrappeso, un po' goloso, e quindi ho trovato all'età di 41 anni ho avuto questa informazione, no? Che cioè sei diventato, tu l'hai fatto per dimagrire all'inizio? No, l'ho fatto per curiosità, perché io sono un ricercatore della libertà, quindi subito ho pensato, ma questa cosa se mi libera delle abitudini e del bisogno del cibo è meraviglioso. Senti una cosa, ma adesso andando sul concreto, tu dici non si respira solamente l'aria, addirittura si può mangiare con il naso, come si fa a mangiare col naso? In pratica non è che, che si mangia con il naso, i sensi di percezione che abbiamo ci creiamo con la bellezza di uno sguardo, con un odore, un profumo, con un'unione del nostro essere, una carezza, un sentire. Ho capito, amico mio, però come si fa? Come si riesce a campare senza mangiare? Solamente tu l'acqua, allora, l'acqua la bevi? È un risveglio del codice genetico, stiamo parlando di genetica, quindi con le intenzioni noi guidiamo il nostro essere. Mm. Ma l'acqua la bevi o no? L'acqua la bevo, ma molto poca, perché il corpo, siccome non assume dei cibi, allora le tossine, il corpo è senza tossine. Quando il corpo è senza le tossine non ha bisogno di acqua. Io ogni tanto sgarri o no? Non è che sgarro, ogni tanto io decido di mangiare. Perché io sono in quello che, cioè, diciamo, sono un vespidiano, mi considero principiante, è un anno e mezzo che pratico. E in questo anno e mezzo quante volte hai mangiato? Quindi di media mangio una volta a settimana, come dico adesso. E che io mangi? Cosa mangi quando mangio? A secondo, l'ultima volta che ho mangiato era la pizza vegetariana del mio cugino. La pizza vegetariana di tuo cugino. In una settimana mangi una pizza, insomma, praticamente. Sì, può anche essere più volte a settimana, oppure una volta al mese o una volta ogni due mesi. E dove vivi? Dove vivi? Abito vicino a Fabriano, in un paese che si chiama Coccore, in Italia. Ma in casa oppure in una tenda per strada, sotto un bosco, dove abiti? Io abito in una yurta. Una yurta è una casa mongola, sì, è una specie di tenda, sì. Comunque, ragazzi, questo signore qua, che si chiama Pillars di cognome, è la prova vivente che uno può campare, vivere e non si crepa, anche senza toccare cibo. Praticamente toccando cibo più o meno una volta a settimana, qualche volta anche una volta ogni due settimane, e prendendo tutto quello che viene dall'aria, dalle sensazioni. Fammi un altro esempio di una cosa con cui ci si nutre. La presenza, il qui ed ora, anche chiamato in inglese mindfulness. Quindi che vuol dire la presenza? Che è la presenza? La presenza significa non pensare troppo al futuro né troppo al passato, ma rimani con te stesso nel qui ed ora, quindi guardi. E con quello ci si nutre? Sì, molto. Ci si nutre molto. Vabbè, caro Nicola, ti abbraccio fortissimo, mi raccomando, 60, non fare cazzate, non crepare, ciao Nicola, ciao. Allora ragazzi, dove andiamo? Emanuele Verona, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Intanto ti faccio i miei complimenti per quello che dici e per quello che fai. Dimmi. Senti, io ti porto un altro punto di vista, che è la mia esperienza di vita riguardo all'utero in affitto. Io ho perso una bambina in 5 mesi e mezzo di gravidanza. Sì. Facciamo così, dopo... è un racconto sicuramente molto lungo e interessante, Emanuele. No, e adesso... No, dimmi. L'anno dopo sono riuscito ad avere mia figlia con mille difficoltà, sì, nata prematura, sì, per fortuna, sì, sana. Perché io non posso coinvolgere mia sorella che mi dà l'utero in affitto per avere un figlio? Amico mio, ma io lo capisco, ti capisco e sono dalla parte tua. Sono assolutamente dalla parte tua. Io, Davide, non posso, no, avere figli. Sì, certo, tu vorresti coinvolgere tua sorella per metterla incinta, non so te naturalmente, cioè quella. L'utero in affitto, prendo l'ovulo di mia moglie. Sì, lo impianti col tuo seme, lo impianti dentro. Vorresti utilizzare tua sorella come per l'utero in affitto, ma lei è disponibile? Certo. Questo è interessante, magari ne parliamo domani. È Davide, provincia di Monza, e chiudiamo. Dai, Davide. Ciao Cruciani, dimmi. Messo insieme la cifra che chiedevi, 200.000 euro, tra buoni pasto e buoni benzina. Se, sì, vuoi, una di queste sere facciamo una parentesi della zanzara, facciamo la pecorina. Beh Davide, non dire cazzate, dai, su, non ce l'hai 200.000 euro da offrirmi, dai, non dire stupidaggini. A domani, 18.30, ciao. Ciao ragazzi, io sono etero, ma sono frocio della zanzara. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.